ma non fa, è una, ma guarda che mia moglie non è mia moglie, non è mia moglie, è una signora che ha una sua testa, una sua politica e una sua esistenza. La zanzara. Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia. Penso che un Monti così non ritorni mai più. Fini, Di Pietro e Ingroia non ci sono più. Poi all'improvviso un signore che con 5 stelle a Berlusconi e Bersani gli grida alle spalle. Il ciuccio, no, no. Sono morti, non bisogna neanche parlarne, è vilipendio a cadavere. No, no, no, no. Pensioni, stipendi, auto blu. Oggi Grillo dopo l'apertura di Bersani. Bersani è uno stalker politico. Si dovrebbe dimettere. È riuscito persino a perdere vincendo, superando la buonanima di Walterlo, cioè Beltroni. Questo smacchiatore fallito ha l'arroganza di chiedere il nostro sostegno. Comincia bene, questo tentativo di approccio comincia bene. Il ciuccio, no, no. A proposito di Bersani Grillo, sentite un po' di Bersani su Grillo. Ad agosto, tanto per fare un esempio, agosto. Pensioni, stipendi, auto blu. Io vedo anche rivolto al nostro partito, voglio dirlo da qui, correre sulla rete dei linguaggi del tipo: siete degli zombie, siete dei cadaveri ambulanti, vi seppelliremo vivi. Sono linguaggi fascisti, fascisti! E a noi non ci impressionano! Non ci impressionano, vengano a dircelo, vengano qui a dircelo, via dalla rete, venite qui a dircelo. Tra l'altro oggi Bersani dice a Grillo: venga a dirmelo in Parlamento, no? E ha ragione. Beh, sì, ma non c'è in Parlamento Grillo, non c'è. No, non c'è. Vengano quelli del movimento. Ma non contano nulla quelli, nulla. Parenzo, non contano niente. E allora peggio mi ma sento. Ma decidono visto tutto, che... Casaleggio e Grillo, ma non a Montecitorio, in un piccolo casolare della Liguria. Ma se ti piace così è ma perfetto, non lo so se mi piace così. Una nuova democrazia. Ma ottimo. È così, quelli che sono entrati in Parlamento contano meno di me e di te messi insieme, zero. Io lo dico con grande rispetto per questi qua. Ma sì, stai dando ma non delle conta... marionette nelle mani. Allora, nelle mani Grillo del innanzitutto dice: con Napolitano ci vado a parlare io. Dopo aver detto a Napolitano le seguenti cose. Senti questa cosa qua. Senti questa perché... cosa dell'altro giorno di, ma hai di Grillo e Napolitano. Ha ragione. No, adesso arriviamo pure a Steinbrück. Oggi Napolitano è stato il numero uno, innanzitutto. No, numero uno in Germania. Io, guarda, numero uno. Sono ogni volta sempre più felice di non pensarla con te, ma non ci mettiamo no, neanche ma d'accordo. No, ma senti Grillo su Napolitano qualche giorno fa, cioè ieri in realtà. Cosa devo andare a dire a Napolitano? Sono personaggi che fanno parte della storia, ma veramente. Fanno parte della storia, però ci vado io a parlare. Dopo avergli dato del Morfeo, le Maserati, i giardinieri, te lo ricordi i giardinieri? Sentiamo i giardinieri, o Giorgione che ha 18 giardinieri, e poi ci vuole andare lui, capito? Ad umiliarlo, vuole andare al Quirinale ad umiliarlo. Sono collusi tutti, è chiaro, no? Sono collusi tutti, tutti i vertici. Allora, andiamo un po' a vedere quanto ci costa o Giorgione, o Guaglione, Napolitano. La Presidenza della Repubblica costa 242 milioni di euro all'anno. Hanno 18 giardinieri. Fachi Campara se n'ha 4. Quando la regina ha detto che noi, ha visto che noi ne abbiamo 18, ha detto: ma che pianze esotiche che hanno. la benzina anche loro. Questa è la Zanzara 800240024. Lo dico subito, oggi napoletano, che cos'è? Questa è la radio del Movimento 5 Stelle, che Zanzara. Sì, sì, va bene, continua la tua demolizione, la demolizione della trasmissione. State ascoltando Cruciani Casaleggio. Ma non faccio il cretino. Ecco, allora dico subito una cosa, oggi napoletano in Germania numero uno assoluto, ha voluto incontrare quel personaggio che è il capo della SPD, Steinbrück, che lo conoscono giusto in Germania, non in Italia, un signore che si chiama Steinbrück, che è il capo della SPD tedesca, il quale ha detto che in Italia ci sono due clown, uno è Grillo, l'altro è Berlusconi, che ha anche un po' di testosterone. È una constatazione, ma lo possiamo fare io, te, alla Zanzara, e forse anche il nostro ospite che abbiamo qui. Però, hai capito come ci giudicano all'estero? Ma non mi interessa, non lo deve dire il capo dell'opposizione tedesca. Non lo deve dire. No, infatti, Napolitano gli ha detto: io non ti incontro, non ti voglio nemmeno vedere, nemmeno per. Ma scusami, io adesso dico una cosa a favore invece dei paesi esteri. Cioè, quando questi paesi ci attaccavano su un altro piano, in molti stavano. C'è tempo. No. Intanto ti avverto che al Consiglio regionale della Lombardia ancora una volta ce l'ha fatta la figlia di Fatuzzo. La pensionata, sì. Quelle che pensionati. Sì. Quelli che dicono pensionati avanti tutta. La figlia di Fatuzzo, signori miei. Noi vogliamo cancellare il decreto Monti. Ha spostato l'età di pensione da un giorno all'altro da 60 a 67 anni. Ha bloccato tutte le pensioni superiori a 1.200 euro netti al mese, 20 milioni di pensionati, e se votassero tutti il partito pensionati. Ma perché tutti dovrebbero votare il partito dei pensionati? Questo, vabbè, ma questo comunque è un genio. Ma questo padre appartiene... e figlio sono due geni assoluti, li conosco da tanti anni, sono due geni totali. Che devi fare? Uno si inventa un partito come quelli che hanno fatto il partito no tasse. Certo, bellissimo. Certo. Bellissimo. Michele Emiliano con noi. Buonasera, sindaco di Bari, grande Grillino. Buonasera. Buonasera, come state? Bene, lei avanti come sta? Tutta. La pacchia, eh? Beh, senti, beh. Emiliano, la pacchia, quello che sta succedendo. Beh, ma in certo, Italia, Emiliano, eh? Scusi, per noi eravamo già pronti a tirare giù la Claire con un governo serio. Tiravamo giù la Claire, fira, chiuso. Emiliano, tanti commenti. Ma stai calmo, lo la fai parlare. Italiana. Ma noi non potremmo sopravvivere, infatti, senza questo bordello, senza il caos. Tant'è che io ho votato per Grillo. Una trasmissione noiosissima. Ma io ho votato per il caos, infatti, solo per questo, perché più caos, più Zanzara. Più casino, più Zanzara. Comunque mi trovo benissimo. Siamo in grande forma. Senta, lei però, Emiliano, ha fatto una proposta un po' assurda, diciamo la verità. Cioè, lei dice: Grillo scelga il nostro leader. Beh. No, ho detto che Grillo deve ricevere l'incarico di presidente. Di presidente incaricato dal presidente della Repubblica, il governo lo deve formare lui. Ma no, ma questo mi sembra veramente. Lei sta giocando, lei ci sta prendendo in giro. È l'unico modo per portarlo in Parlamento e farlo parlare con Bersani. Ma ecco, quella è la realtà. Questa lei lo fa per questo. L'unico modo perché dica. No, è l'unico modo per evitare che si sieda sulla riva del fiume e che aspetti il passaggio dei cadaveri davanti a lui, compreso il suo cadavere, che si mette in una posizione che assomiglia a quella di Totò quando diceva: ma che mi chiamo Peppino? Io prendeva gli schiaffi e diceva: che mi chiamo Peppino? Adesso, siccome ha vinto le elezioni, questo bisogna dirlo, sì. E siccome non mi pare politicamente immaturo, è molto intelligente, sì. Apprezzato, più di Bersani, è un uomo più di Bersani, che ha, come posso dire, gestito bene, sì, tutte le cose che gli sono capitate nella sua vita, lo ha fatto con attenzione. Ma è più intelligente politicamente, è più politicamente da consulenti, avvocati, da persone, sì, intelligenti, sceglie bene i suoi collaboratori e ha fatto qualche cosa di straordinario, cioè ha messo insieme, sì, il 25% del popolo italiano, almeno degli elettori, e li ha portati in Parlamento tra la Camera ed il Scusi Senato. Un attimo, sarebbero più... stati molti di più con un sistema proporzionale. Scusi un attimo, Emiliano, ma è più intelligente politicamente di Bersani? Sì, assolutamente, sì. Non sta a me dare pagelle di intelligenza politica, perché sarebbe un atto anche pericoloso per la mia incolumità. Però è evidente che però Grillo, al di là della provocazione del Grillo premier, no, stasera non posso abboccare la provocazione, sennò domani mi spento. No, ma è la sua provocazione, è una provocazione questa, no, qua non di è Grillo premier. È una cosa seria, perché chi ha vinto le elezioni dal punto di vista politico deve avere l'incarico di formare il governo. Vabbè, è una provocazione per far scoprire. Potrebbe anche dire, come ha detto Dario Fo, io non me la sento di fare il Presidente del Consiglio e quello ha detto perché è vecchio, quest'altra però. Personalità, questo potrebbe farlo, ma non nel nostro partito, nel suo partito. Scusi un attimo, dunque cioè, noi in carico, i ruoli. Senza credo scherzi, noi in carico a Bersani? Debba sostenere il governo Grillo. Noi in carico a Bersani? No, io dico solo che in Bersani che si fa, diciamo così, impiombare, si fa dire la mattina quello che si deve mettere, se si deve mettere il cravattino o il farfallino, perché ecco, quello non va bene, quello non mi sta pare accadendo. Una cosa intelligente, quello anche sta perché c'è bisogno che il Partito Democratico attui, diciamo così, quel sostegno esterno. Noi potremmo votarla la fiducia al governo Grillo, vabbè, dai, su, a dargli un sostegno esterno e consentire al governo formato dal dottor Beppe Grillo di governare il paese. E Bersani il che fa? Che potrebbe fare? È un'operazione fare? Al massacro che serve solo ad andare a votare fra qualche mese, sì. Dopo aver finito di massacrare il Partito Democratico e il PDL. Ho capito, però Emiliano, adesso uscendo fuori da questo scherzo, perché lei un po' non scherza, è un po' no. Sì, d'accordo, però insomma, lei sa benissimo che l'incarico a Grillo non è una cosa possibile. Ma, ma per quale ragione, mi scusi, adesso anche so che io non devo fare le domande, però... Ma non è possibile, nei fatti, perché il Partito Democratico ha la maggioranza relativa alla Camera dei Deputati. Ma guardi, mi pare di poter dire che il partito di Grillo è il primo partito del Parlamento italiano e a questo punto, non al di là delle coalizioni, non nei seggi. È giusto che l'incarico sia assegnato a lui, anche perché non ci sono maggioranze diciamo che consentano di ottenere la fiducia. Di faccio un appello a Napolitano, il presidente allora. Delle due Camere. Scusi un attimo. Faccio un appello a Napolitano, giusto? Io sono d'accordo con l'analisi del Presidente. Sì, ma questa... Fermo restando ovviamente che io sto entrando in un territorio, come posso dire, piuttosto complesso che di esclusiva pertinenza. Ma diciamo se... però lasciamo perdere adesso l'ipotesi di Grillo Premier. Nel PD, tolto Bersani, chi è che può fare da pontiere? Può essere un nome... No, io non la lascio perdere e non mi faccio spostare di un millimetro da questa opzione, perché questa opzione, se viene condivisa da Cruciani e da Parenzo, diventa una cosa seria. Ma Presidente della Repubblica che voi Grillo invece a convincere il paese, perché io da solo non ci posso riuscire. Viceversa, se voi vi rendeste conto che è l'unica possibilità che abbiamo, per noi sarebbe un grosso passo avanti dal punto di vista politico. Però scusi un attimo Emiliano, ma invece l'ipotesi di Grillo Presidente della Repubblica, perché no? Ma perché credo che il ruolo di Presidente della Repubblica sta bene ad un soggetto super partes che unisce il paese. Chi può essere secondo lei un nome che unisce? Grillo è un uomo di parte, chi... non è un uomo. Ecco, un nome si fanno tanti nomi, Grillo ha fatto Dario Fo, qualcun altro ha fatto il nome addirittura, cioè anche Crocetta ha fatto il suo nome, i suoi nomi, anzi poi sentiremo le contraddizioni di Crocetta, ma io ho già detto che Dario Fo sarebbe stato un'ottima possibilità, un uomo di cultura. Ma perché non si scrive direttamente a 5 Stelle lei? Per tutto il mondo. Perché non si però, 5 Stelle, come lei... tutte le persone per bene, ha detto io ho una certa età e non me la sento. Ma perché non si iscrive direttamente a 5 Stelle lei, Emiliano? Perché io sono il presidente del Partito Democratico della Puglia e non si deve pensare al PD come un monolite fatto di persone che pensano tutta la stessa maniera. Perché traffico, non è così. La traffico. Gran parte del Partito Democratico sta con Grillo. No, avrebbe un gran desiderio di colloquiare con quegli italiani e trovare una soluzione al caso italiano con coloro che hanno votato per Grillo, perché se noi pensassimo diversamente saremmo dei matti. Cioè, scusi, dunque, poi do la linea al traffico, governissimo col PDL... 2004, un attimo solo, eletto, no, ma lasciamo perdere il 2004. Somigliava molto a quella di Grillo. Emiliano, un attimo solo, l'accordo col PDL sarebbe come peggio della lebbra? Peggio non esiste neanche le ipotesi. Questa neanche è una ipotesi che probabilmente mi costringerebbe a prendere delle decisioni anche sulla mia appartenenza al Partito Democratico. Cioè lei uscirebbe dal Partito Democratico? Dovessimo fare un'alleanza col Giaguaro. Col Giaguaro lei uscirebbe ho dal Partito? Ho già detto che siccome il Giaguaro non l'abbiamo smacchiato, adesso non ci possiamo andare a bere al laghetto perché sennò ci sbrana. Ma tu ti ricordi, Parenzo, quella mitica uscita di Fassino, all'epoca credo segretario, non so che, del Partito Democratico? Sì, sì. Che nel 2009 disse Grillo, un po' spocchioso, no? Provocatore, faccia un partito e venga a prendere i voti, e venga a prendere i voti, tanto lo riteneva una cosa impossibile, no? Fassino. E se Grillo vuol far politica, fondi un partito, metta in piedi un'organizzazione, si presenti all'elezione, vediamo quanti voti prende e perché non lo fa. Senti Emiliano, perché Bersani non dice esplicitamente ho perso? Perché di questo si tratta, su, diciamo la verità, lo dice anche lei, no? Ho perso. Credo che l'abbia detto, perché ha detto non abbiamo vinto nonostante siamo arrivati primi. Beh, è come Parma. Un linguaggio, diverso da quello che avrei adottato io, ma nella sostanza significa questo. Cioè, forse lei che avrebbe detto? Sono sempre più dolci che in Puglia nel dire le cose. In Emilia sono sempre un po' più dolci. Comunque lei è molto chiaro, se si fa un accordo col PD, lascio il PD, è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Lei si consegna a Grillo però in questo modo, scusi. No, assolutamente, io non ho alcuna intenzione di aderire al movimento di Grillo. No, io però lei consegna il PD a Grillo. Di cambiare il Partito Democratico e farlo diventare un partito nel quale gli elettori dei grillini si trovino a casa, è una cosa ben diversa. Ma no, ma in questo caso significa consegnarsi a Grillo, questa è la realtà, perché quando chiedi una cosa a Grillo, quello chiede sempre di più. Ma certo. Lei l'abolirebbe il finanziamento pubblico ai partiti? Io certamente, sull'istante il finanziamento pubblico. Ma lei è perfetto per i 5 Stelle. Di spendere soldi inutilmente per far fare politica a delle persone che se vogliono la politica se la pagano. Senta, ma un governo di Grillo, tedeschi, proviamo però a identificare, i tedeschi hanno ragione a dire, hanno ragione che hanno vinto due clown, Berlusconi e Grillo. Formalmente, credo che il Presidente della Repubblica abbia fatto benissimo a reagire come ha reagito. Noi abbiamo votato, non abbiamo giocato. E i tedeschi vadano a quel paese. Andiamo rispettati. Vadano a quel paese. I tedeschi devono imparare a rispettarci non solo nel calcio, ma in tutte le altre cose che facciamo. Bravo, su questo ha ragione Emiliano. Vadano a quel paese e l'aggiungo io, in questo caso il presidente. Non mi permetterei di dire una cosa. Il capo della SPD, ma che vuole? Molti amici tedeschi. Ma che vuole il capo? Gli ordinari amano profondamente l'Italia. Ma che vuole il capo della SPD? Ma pensa agli affari suoi. Ma non è un parere, è una cosa che possiamo. Voleva dare una mano, ma ha sbagliato. Ma chi voleva dare una mano? A chi? Non lo so. Spesso e volentieri nella sinistra chi vuol dare una mano combina disastri. Esatto. Ma era un soccorso rosso. Ma il soccorso rosso non richiesto, peraltro. Ecco, bravo. Non richiesto. Però sono due clown. Però adesso non pigliamocela con lui che non c'entra. No, bravo, poi non lo conosce nessuno. Scusa, Cacciari ha ragione. Beh, quella però il clown col testosterone non ha tutti i torti su Rimangono Berlusconi. Due clown. Vabbè, Cacciari è un uomo immenso, quindi io ne ho una stima. Quando dice peraltro, credo che lui non sappia neanche chi sono io, perché è un tipo un po' particolare. Un po' snob, diciamo. Io ne ho una stima. Ma ha ragione a dire che sono delle teste di cazzo al PD per quello che è successo o no? No, diciamo che quasi. Un conto è, allora sarò diplomatico, un conto beh, no, è diplomatico non ci piace. In campagna elettorale quello era stato fatto bene, poi la campagna elettorale è stata fatta malissimo, un disastro. E devo anche aggiungere, c'era però una confusione politica, perché la campagna elettorale viene male quando c'è una confusione politica sui l'errore di il primo programma. Errore di Bersani, qual è stato l'errore clamoroso di Bersani? Clamoroso. No, che non è capace non a fare campagna elettorale. Errori non clamorosi. È capace, non è probabilmente capace. Non ha mandato, come posso dire, a quel paese una serie di probabilmente consulenti esterni, non mi riferisco al suo staff politico, che avrebbero dovuto, come posso dire, spiegargli che i sondaggi questa volta rischiavano di essere sbagliati. Sarò più preciso. Comunque D'Alema, se noi fossimo D'Alema, arrivati al giorno delle elezioni sapendo che c'era un rischio di questo tipo, avremmo preparato il nostro partito, avremmo preparato l'Italia e non avremmo fatto la figura degli stupiti che invece abbiamo fatto a causa dei sondaggi. Emiliano, che ci avevano detto che noi avevamo già vinto. Scusi un attimo. Non nascondo che io però un avviso da sindaco l'avevo dato. Avevo detto, guardate, le sensazioni che ho io per strada non corrispondono affatto ai sondaggi. Quindi se volete riuniamo un po' di sindaci più sensibili e discutiamo per fare gli ultimi 10 giorni della campagna elettorale in modo un po' diverso. E non l'hanno ascoltato. Purtroppo i sondaggisti hanno avuto la meglio. Scusi un attimo, ma lo sa che D'Alema sembra che stia lavorando a un accordo col PDL? La stupisce questo? Non credo proprio che questo stia avvenendo e mi stupirei se fosse vero. Scusi un attimo, il governo ideale per lei, dunque Grillo Premier, il ministro degli esteri chi lo potrebbe fare secondo lei? Il ministro degli esteri lo potrebbe fare D'Alema, perché Grillo e D'Alema nello stesso governo sarebbero fantastici. Ho capito, Emiliano, è impossibile. Adesso posso scherzare anch'io un po', no? Sta scherzando, però un governo ideale, ci dia un ministro dell'economia di un governo Grillo. Adesso mi permetto di dire che non vorrei bruciare delle personalità importanti, anche perché Grillo non credo che ne abbia molti adatti a fare il presidente, a fare il ministro degli esteri, quindi preferisco che lui li individui da solo senza bruciarglieli. Vuole quello dare che però tutto conta, il potere, più che tutto il potere a Grillo. Questa è la lezione che Grillo sta dando a tutti. E qual è? Quello che conta è la nostra politica estera, non chi è il ministro. Vabbè, quello lasciamo per il programma. Scusi un attimo, ma De Magistris è finito malissimo, ha visto, Mamma mia, che brutta. Io gliel'avevo detto. Che brutta fine. No, adesso brutta fine mi pare esagerato, ma, però ma avevo detto che quella lista aveva senso nella misura in cui fosse stata alleata del centro-sinistra. Ma l'ha letto l'ultimo tweet? Ha contenuto personalità esterne ai partiti. Ha raccattato, sì, diciamo, tutta una serie di personalità che ormai erano in difficoltà. Ha raccattato cadaveri politici. Cadaveri politici. Cadaveri politici. Di Berto che sì. Ferrero che Di Pietro. Sono persone. Senta, che quando Steinbrück, questo tedesco, dice, però, dice che era c'è... prevedibile che andasse a finire. Quando Steinbrück, il tedesco, dice che c'è. Che c'è un uomo che è un clown anche con un po' di testosterone. Ha ragione, sì o no, però, nei fatti. No, io anche nei confronti di Berlusconi, adesso voglio dire, uno può fare tutte le polemiche politiche che vuole, però come virtù politiche assolute, cioè indipendentemente dal contenuto del suo programma, Berlusconi ha dimostrato che l'alfa e l'omega del centrodestra italiano. Cioè, non è un clown con testosterone. Non c'è nient'altro, c'è solo lui. Grazie, che è una grazie, devo chiudere. Obiettivamente fuori dall'ordinario. Grazie, devo chiudere, a presto. Se Grillo vuol far politica, fondi un partito. Metta in piedi un'organizzazione, si presenti all'elezione, vediamo quanti voti prende e perché non lo fa. Uno, due, tre, buuuu! La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Ai, ai, mi ha beccato, ai, ai, mi ha beccato, gratta, gratta. Arrendetevi! Arrendetevi! Arrendetevi, siete circondati! Arrendetevi, siete invisibili! Una botta a polpaccio e poi all'altro, una botta nel braccio e poi all'altro. Prendila, prendila, scazzala, scazzala, ti ho beccato! Io mi aspettavo che perlomeno un presidente della Repubblica avesse detto, ma vi immaginate se ci fosse stato Pertini? Ma io mi immaginavo! Pertini avrebbe dato un pugno sul tavolo e avrebbe gridato fuori i nomi, gridato fuori chi ha rubato, l'avrebbe detto un uomo così. E invece Napoletano uguagliuno ha detto, oh privacy, a privacy. Spegni la luce, passa dalla... Il Partito Democratico vorrebbe fare l'accordo, avete sentito prima da Emiliano? Ma ieri ci ha provato anche Bersani con uno come Grillo, non lo sto dicendo in senso negativo, come ovvio, no? Con uno come Grillo che sostiene che bisogna fare una commissione d'inchiesta sul Monte dei Paschi di Siena, che dice a Napolitano, che è uno dei simboli del Partito Democratico, o Guaglione, o Giorgione che c'ha 18 giardinieri, a privacy, non è come Pertini, umiliandolo perché ci va lui a fare le consultazioni. Ma pur di fare il governo, sentite cosa ha detto la Moretti, portavoce della campagna, deputato adesso, portavoce della campagna di Bersani. Ma non è pur di fare la il governo. Commissione, la commissione, no, e che cos'è allora? La responsabilità. Ma usa la parola che vuoi, ma come se ne esce, scusami. A me non me ne frega nulla, non mi interessa, dici tu, senti, non mi interessa. Mica è compito mio, senti la Moretti ieri sera a Ballarò. La commissione parlamentare sul Monte dei Paschi, che analizzi l'operato degli ultimi 5 segretari del PD, voi che dite? Va bene, cioè, voglio dire, l'operazione trasparenza... Ma va bene cosa? Ma l'avete sentito Grillo che cosa ha detto? Mettere, non qua, è un'altra volta, mettere sotto processo i vertici del Partito Democratico dal 95 a oggi. Questo vuole fare, vorrebbe fare, come ovvio, ma di quale trattativa stiamo parlando? Forse non hai capito cosa sta succedendo, ma non importa, andiamo avanti. Andiamo avanti, prego, non hai capito di cosa stiamo parlando. Scusi, militante del Partito Democratico, scusi, ma io non sono militante di un cavolo. Io ti sto semplicemente dicendo che a questi qua ora sono in Parlamento, qualcosa dovrà succedere. No, sono guidati da due persone, da Grillo e da Casaleggio. Continueranno a dire che cosa alzate vogliono, le mani, arrendetevi, ma siete vogliono che passi il cadavere, vogliono che passi il cadavere. Ma quale, ma che succede? E quindi che si fa? Niente, che nulla, si fa? Nulla. Ma nulla. Tu sai come funziona? Cioè, votare tre cose, no? Una cosa intelligente sarebbe questa. Fammi fare il consigliere. Detto, bisogna fare un programma. No, ma stai tranquillo, punti. Ma lascia perdere e quello che dice Bersani. Lascia perdere. La cosa da fare sono tre cose. Faccio il consigliere. Tre cose. Un governo che porti tre punti. L'eliminazione dei vitalizi. Domani e mattina. Quello che hanno proposto. Ma chi? Dove? Quando? Che ha detto Bersani, ma tutti sturi le orecchie la mattina o no? Bersani cosa ha detto? L'eliminazione dei vitalizi dei parlamentari. Eliminazione del finanziamento pubblico. dei partiti? Sì, l'ha detto? Sì, 3-4 punti. Ma, da fare, ma, dico, ma sei pazzo o stai parlando sul 3, serio? 4 Bersani punti. Ha detto che bisogna eliminare il finanziamento pubblico oddio, dei partiti. Ma oddio, che dici? L'ha detto. Oddio. Vabbè, 3, non ha capito, vai, titoli del TG3, non ha capito. Vabbè, insomma, non è strano, non ha capito. Non ha capito Parenzo, non, è, non sto dicendo una cosa stranissima. Non capisci un cazzo. Ecco, appunto, titoli vabbè, del TG3. Tu sei anche poi al Parlamento. Titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Napolitano a Monaco annulla l'incontro con Steinbrück, che aveva definito Grillo e Berlusconi dei clown. L'Italia rispetta la Germania ma esige rispetto. Grillo gela Bersani: non voteremo la fiducia, sei un morto che cammina, chiunque al tuo posto si sarebbe dimesso. Ma sul blog in tanti scrivono: Beppe, stai sbagliando. Il segretario del PD replica: quel che hai da dirmi, insulti compresi, voglio sentirlo in Parlamento. Vendola no al governissimo, il leader di sé, l'ospite del TG3. Berlusconi: la governabilità è un valore, bisogna dare subito un segnale di stabilità, partiamo dalle cose da fare, non dalle alleanze. La Lega di mezza ai voti ma conquista la Lombardia, Maroni missione compiuta, ora possiamo creare la macro regione, Ambrosoli valeva la pena di battersi. Borse in recupero ma sui mercati resta l'incertezza del dopovoto, spread sempre alto, Schäuble da Italia pericolo di contagio ma l'asta BTP va bene. Udienza generale di Benedetto XVI che domani lascerà il soglio, non scendo dalla croce, ha detto il Papa in una piazza San Pietro stracolma. Well now, little mosquito, there must be. Zanzara, zanzara per tutti, 800 24 00 24, chiamateci perché c'è battaglia, c'è sangue. Parenzo, però dai un piccolo avvertimento a quelli che in questo momento sono con qualche bambino in macchina, perché sto per farti ascoltare una cosa che magari non si sente benissimo, dunque aguzzate anche le orecchie, mettetele bene, registratele bene, no? Modulate bene il vostro udito, qualcuno che ha l'apparecchio rafforzi il volume dell'apparecchio, quelli che hanno, i tantissimi che ci stanno ascoltando in questo momento, e soprattutto utilizzate la solita precauzione se avete bambini in macchina. Quale? Beh, cari amici che siete in macchina e state tornando a casa dalle vostre mogli, dalle vostre amichette o dei vostri amanti, accostate leggermente la macchina, voi che siete sul grande raccordo anulare. Beh, oppure sulla tangenziale di Milano, oppure in tutta Italia, naturalmente. Oppure, però vediamo il grande raccordo anulare come snodo di esempio, racconto. Sì, allora scendete dalla macchina, prendete il vostro adorato bambino. Ora, anziché legarlo, come spesso vi ho consigliato di fare, sopra il tetto, alzate i tergi cristalli e mettete il bambino con le mani e la faccia schiacciata contro il vetro, abbassate i tergicristalli, prima di mettere in moto azionate il tergicristallo, mettete immediatamente la quarta e via Zanzara a tutto volume. Questo ragazzo si chiama Battelli. Io perché ho dichiarato, mi pare una parola grossa, ho detto non voglio sentire prima delle elezioni questi dei 5 Stelle, perché altrimenti molto difficilmente avrei fatto quella scelta, che è una scelta del tutto folle, lo so, però non li volevo sentire. Se avessi ascoltato questa cosa qui, vabbè, lasciamo perdere. Questo si chiama Battelli. Cari ascoltatori, state lì, non cambiate, so che non cambiate mai stazione, state lì attenti, si chiama Battelli, è di Genova, credo, dove diavolo è? Di Genova, insomma Ligure, non so dove, è impiegato in un negozio, l'onorevole Battelli. Senti. Questa sera vi mostriamo la eiaculazione in bocca. Allora, prendete il paziente, mettetelo a 90, il segreto è ficcare le due dita in culo. Grazie. Hai capito qualcosa o no? Nulla, vabbè. Il segreto è ficcare le due dita, eccetera, l'eiaculazione, eccetera. Vabbè. Questo è l'onorevole? Grazie a non leggerlo, meno male che non si è sentito nulla. Questo è l'onorevole? Battelli, grazie al mitico non leggerlo, che ha recuperato. L'onorevole del 5 Stelle questo, Battelli, sì, non me lo dire, ti prego, non me lo dire. No, l'onorevole del 5 Stelle questo. Sì, e non poi me lo dicono dire. Che non ci sono dei clown. Andate a sentire il clown, veramente il signor tedesco l'ha detto, signore sconosciuto tedesco, sconosciuto a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Lo ha detto a Berlusconi e a Beppe Grillo, no? Con Berlusconi ha aggiunto anche la parola testosterone, però, Monellacci. I'm nature's mosquito. Crozza, senti su Bersani, Crozza, come dire che la bella del paese è stupenda. Noi non abbiamo vinto, ma siamo arrivati primi. Non abbiamo vinto, ma siamo arrivati primi. Ragazzi, che è un po' come dire alla bella del paese, non me l'hai data, ma mi è piaciuto lo stesso. Può sta qua, ragazzi. There must be well some reason for you that I just can't see. Well there is for your right son. You see God. Oh, dovevo leggerti una cosa. Beh, stiamo parlando sempre di quest'acqua qua, siamo mica tutti qui alla Zanzara con Gianni, siamo mica qui sempre quest'acqua, è sempre quest'acqua qui di cui parliamo, cioè su questo mare qui c'è anche il signor Grillo, è sempre quest'acqua qui, Pasquale da Lecco 800 24 00 24. Pasquale, buonasera Cruciani. Vada. Radio Casaleggio? Ma che Radio Casaleggio? Queste sono le stronzate che dice Parenzo. No, su dai, scusi un attimo amore, stai fuori amore, due ore poi arrivo. Ma chi è? Ho chiuso fuori mia figlia che non può sentire la Zanzara. Perché? Troppe parolacce? A freddo, però abbi pazienza amore, alle 9 arrivo. Allora Parenzo, sì. Bravo, bravissimo. Parenzo. Chiuda fuori la bambina. Chiuda. E le scateni dei Doberman. No, in pigiama. Fuori da casa. Giubbetto, ma il giubbetto mi sembra troppo esagerato. Sto fuori. Sì, bravo, ma anche dei Doberman. Gli scateni dei Doberman. No, ci sono dei cani, sarà Angela lei. Ottimo. Una cosa, Parenzo. Ottimo. Bravo. Parenzo, sì, l'ho sempre difesa. Sì. Però torni nella realtà. Ecco. È tutto finito, amico mio. È tutto finito. Bravo, è tutto finito. Amico, io lo dico io. Capito? È tutto finito. È inutile che vai lì e fai... Chi è? Sono Bubu. Ma c'è ancora lo smacchiatore? Non c'è niente. È tutto finito. È tutto vuoto. Ma stai parlando di un morto che cammina. Stiamo parlando di morti che camminano. Bersani. Pronto? Scusi, c'è qualcuno dentro quel cervello? Per me si chiama contatore? Dimmi, no, dimmi caro. Non dire così che ti ho sempre difeso, stai zitto. Pasquale, no. Dimmi, però, dimmi, parla con me, parla con me. Però Cruciani, sei stato un po' stronzo con Giannino però. Perché? Che ho fatto? Bravo. Ma perché, scusa un attimo, c'è gente che sono finti medici, finti avvocati. Ma mica si presentano alle elezioni. Ma non si presentano alle elezioni. Ma non si presentano alle elezioni questi qua, è diverso. Non ce ne occupiamo perché non si presentano alle elezioni. Ah, perché le bugie Berlusconi non le dice? Però attenzione, scusi un attimo, grandi novità, soprattutto novità dal mondo di Manuel Fantoni. E così optai per il mare. E così un giorno me ne uscii da casa, me ne andai a Genova e mi imbarcai su un cargo che batteva bandiera liberiana. Che cosa trasportasse quel cargo non l'ho mai capito. In quei due anni ho fatto di tutto. Mi sono drogato. Ah, insomma, sono stato con le donne, con gli uomini, tutto. Dal mondo di Manuel Fantoni oggi c'è Michele Boldrin, il mitico Michele Boldrin, che dice: mi vergogno di avere fondato un movimento e di avergli regalato le mie idee oltre sei mesi della mia vita, perché poi finisse in mano a pusillanimi ed a rivisti di terzo livello. È tutto finito pure là, lo dico con rammarico, ma è tutto finito. Si scannano tra di loro in una riunione di condominio. Diciamo la verità, Parenzo, voglio essere cattivo, feroce fino in fondo. Ma è ovvio che quando si perde poi c'è la resa dei conti. C'è la pubblicità e c'è la borsa. 800 24 00 24. Si prosegue con grandi ospiti e Parenzo, vabbè, Parenzo, certo. Non è vero niente. Amore, stai fuori, amore. Due ore poi arrivo. Chiuso fuori mia figlia che non può sentire la Zanzara. Devono andare tutti a casa. Siamo diventati la prima forza politica del paese. È fantastico. È finita. È moschito. Io sono qua, sono in mezzo alla gente, giro per strada, ok? Ieri sera ero in birreria a parlare con dei ragazzi che vogliono votare Grillo e gli ho chiesto: quando l'avete visto voi Grillo in giro? Va bene? Ok. Quindi a me mi insulto, sono figlio di un meccanico io, eh. So cosa vuol dire, non sono un miliardario. Tendiamoci bene. La Zanzara 800 24 0024. Stefano da Bergamo, buonasera Stefano. Sì, buonasera. Vada. Allora, volevo dire all'inizio che Emiliano l'ha spiazzato completamente. Non so se è stata una battuta o se si è trovato un po' in contropiede. Ma quale? Quella del candidare Grillo alla premiership? Vabbè, infatti, secondo me resta una provocazione, punto e basta. Sa benissimo anche lui che non è possibile. Sì, ma no, non Grillo, ma guardi, qualcuno del Movimento 5 Stelle potrebbe comunque tentare di fare un consiglio, qualcuno che possa dare delle indicazioni, non è una cosa sbagliata, perché attualmente a quello che si può fare adesso si può fare tutto, cioè ci vuole il coraggio di fare queste cose. Allora, bisogna partire con la gente che abbia voglia e il coraggio di fare delle proposte, perché ormai la forza del movimento c'è e quindi la forza per andare avanti anche gli altri partiti purtroppo la subiscono. Guardi, il punto è molto semplice. Qualsiasi accordo il PD tentasse mai di fare con Grillo, ne sarebbe verrebbe fuori un massacro del Partito Democratico. Sarebbe la morte del Partito Democratico. Ma la morte. Chiaramente non vuole la gente. Che è l'obiettivo di Grillo poi. No, ma non vuole la gente impiccata per le piazze. Ma sì, allora, ma Grillo vuole la disarticolazione di tutti sì, i partiti. Ma anche nel partito c'è gente valida, c'è gente che può fare ancora svolgere. Poi ci si dimentica una cosa, che ci vuole il voto di fiducia al Senato. Adesso, senza entrare nei dettagli. È un sistema che va. Sono gli stessi parlamentari che non hanno capito che il sistema si può cambiare. Napolitano, come Presidente della Repubblica, non ha più senso che rimanga ad andare in Europa o in giro per il mondo. È come se un cantante quest'anno fosse andato sul palco di Sanremo con un frac comprato a prestito. Era meglio che andasse con i jeans strappati, perché ormai il mondo è arrivato lì. Ho capito, ma lei mi pare un perfetto militante, mi sembra comunque molto simpatizzante dei 5 Stelle, così? No, ma voglio dire, la realtà è questa. Ho capito, però uno che tratta Napolitano in quel modo, Napolitano è il simbolo del Partito Democratico, sì, poi no. C'è Bersani che ci vuole fare un accordo, ma ragazzi, ma di che parliamo? Di cosa stiamo parlando? Capito, ma non Napolitano come Napolitano come istituzione, cioè non ha più poi senso, dopodiché non ha più anche Grillo dice le sue follie. Un attimo, ogni mese lo Stato deve pagare 19 milioni di pensioni e 4 milioni di stipendi pubblici, questo scrive Grillo. Questo peso è insostenibile, è un dato di fatto. Lo status quo è insostenibile, eccetera, eccetera. Una macchina infernale che sta prosciugando le risorse del paese, ma allora, sostituita con un reddito di cittadinanza. Sì, d'accordo, però il problema è che se uno riduce gli stipendi pubblici, che poi significa licenziare in sostanza i dipendenti pubblici, poi però li deve pagare quei dipendenti con lo stesso reddito di cittadinanza che lui propone. Cioè, ogni tanto nelle proposte economiche di Grillo ci sono delle contraddizioni. Spesso. Grazie Stefano. Marco da Ferrara, buonasera. Sì, buonasera Cruciani, buonasera. Vada, veloce, basta con sti buonasera. Mi riferisco soprattutto a lei, dottor Parenzo, volevo darle un consiglio medico. Alla luce di quello che ha detto dal suo Movimento 5 Stelle, non è che le bruci un po' il sederino? Le consiglio una pomatina. Molto. Guardi, a me non brucia, assolutamente nulla. Ora, hanno vinto? La pomatina è fantastica, Hanno vinto? Prendi la pomatina. Già presa. Ma prendila. Voglio dire, non state facendo un torto a me. Io al sto paese, dicendo, sentilo, ma al neanche paese. Al paese, non mi interessa. Sto dicendo semplicemente, questi qui adesso facciano qualcosa, governino, va benissimo. Evviva il 5 Stelle, evviva! Da oggi sono qua, mi avete convinto, da oggi sono felice, governino, però fino a quando non scassano tutto, ci sono delle regole, cioè deve andare da Napolitano, farsi dalle regole. Infatti ci va là e lo umilia. Andare in Parlamento e pigliare i voti, dopo appena ha preso i voti cambia tutto, cioè butta giù Palazzo Chigi, diventa la sede di Casaleggio, via, tu, Casaleggio Associati passa a Palazzo Chigi, benissimo, Palazzo Madama va giù e diventa il teatro dove Grillo farà i suoi spettacoli, meraviglioso, Palazzo Madama fa tutti gli spettacoli, e invece a Palazzo Chigi si fa un grande supermercato, meraviglioso, basta, e ognuno da casa vota con l'iPad. Fatelo, io vi aspetto, fatelo, l'iPad ce l'ho già, fatelo però. Donna Assunta? Come sta, carissima? Io ho la febbre, purtroppo. Che è successo, signora Assunta? Ho la febbre, ho l'influenza. Pure io ho il diritto di prendermi l'influenza, no? Scusi, ma quanto c'ha di influenza? Io sono preoccupato. C'ho 39-2. 39-2? No. Quindi... No, donna ma Assunta. Ma sicuri, donna Assunta? Di fatto sono a letto. Ma come se l'è presa? La botta che ha avuto la storace che ha perso le lesioni? No, non me ne frega niente di queste cose. Ci sono da 2 giorni, 3 giorni, prima che incominciasse... lo spoglio, quindi che vuole che mi può venire la febbre per storace? Se lo spoglio, per forza che uno poi si ammala, si spoglia tutto. Se uno no, si spoglia, come dice. Se lo spoglio, se uno si spoglia, per forza si ammala. Non ho capito nulla, guardi. Dice Parezzo che se uno si spoglia è normale che uno prenda l'influenza. Vabbè. Ma io non mi sono spogliata, questa è la verità. Io non ho fatto mai la ballerina. Non so ballare io. Ma sua figlia è stata eletta? Non lo so, perché ancora non è rientrata. Ma che gli frega a lei tanto? Comunque ha fatto questo, mi è piaciuta, si è divertita e quindi sono cose che possono piacere pure, no? Fare un po' di politica, visto che la fanno tutti, perché non la deve fare pure lei? No, per carità. Visto che il signor Fini è fuori dal Parlamento, signor Assunta? Signor Fini è fuori dal Parlamento, si ubriaca allora lei? No, io non bevo, c'ho la febbre, come faccio? No, però lei aveva detto che si ubriacava. Mi ubriacava, però adesso mi è passata. Ma come gli è passata? Non ho voglia nemmeno di bere vino, nemmeno, solo acqua bevo. Solo come acqua? Dire? Però quando si rimette una ubriacatura la faremo o no? Non lo so, la facciamo insieme. Però è una grande goduria, mi dica la verità, è una grande goduria, su, diciamola tutta, fino in fondo, Fini fuori dal Parlamento, per lei è una goduria infinita. E meno male, sono contenta che è contenta lei. No, io non sono contenta di quello che è successo, perché praticamente il popolo italiano è senza governo. E vabbè, ma in Belgio hanno resistito anni e anni senza governo, non è successo nulla, signora Mirante. Beh, insomma, senza governo c'è stato, via, ma non buttiamo acqua dove non c'è. Ma guardi che potrebbe essere pure meglio senza governo. Vabbè, santo, gli italiani sono talmente bravi che possono stare pure senza governo, come dice lei. Scusi un attimo, poi la lasciamo perché ha la febbre, 38,8 è una cosa gravissima. Notizie di quello che sappiamo, Parenzo? Notizie? Abbiamo da dare qualche aggiornamento al signor Almirante? Ah sì sì, no, pare hanno segnalato la presenza del busto nella casa del leader Steinbrück dell'SPD. Capito? Non ho capito niente. No, hanno dichiarato. No, lei ha notizie del busto di suo marito? L'hanno ritrovato? No, non ho saputo più niente. Io ho detto poc'anzi, ormai siamo diventati che nemmeno i busti stanno al posto loro. Quindi può pensare che stanno i cervelli al posto loro. Lo rifà. Certo che lo rifaccio, senza dubbio. Si fa un altro questa volta lo rifaccio di marmo, in maniera che nessuno lo può toccare più, che non hanno che farsene di marmo, no? Infatti, facciamo. Ma adesso non è che sarà un problema nazionale, questa la potete dire. No, assolutamente io non l'ho fatto nemmeno come un problema nazionale. Però ci mancherebbe altro. Mio personale che ci è molto dispiaciuto. No, quello mi dispiace, figuriamoci, però voi sempre del buon. Una mancanza di riguardo anche per chi non c'è più, per i morti. Quindi si vede che siamo talmente nel degrado totale. Sì. Che praticamente è tale il degrado che nemmeno i morti vengono rispettati. Ma non è che è stato Fini a rubare quel busto, no? No, non aveva a che fare. Non c'entra niente lui con questo. No, non c'entra niente. Credo. No, meno male. Era una battuta. Che ne faceva, no? Era una battuta, signora. Alla fine gli piacciono le cose utili, non quelle inutili. Cioè, in che senso le cose utili, scusi? Quello che è utile. Quello che serve. Gli piacciono le cose utili, no? Senta, ma secondo lei adesso... Statua, cosa se ne fa? No, certo. Secondo lei adesso, non per infierire, per carità, che poi uno con i morti, non parlo di suo marito, con i morti politici non infierisce, perché Fini è un morto politico, diciamo la verità, insomma. Politicamente è morto, no? Quando non si rispettano i morti si è dei vigliacchi, perché siccome non si può rispondere... Esatto, no, ma i morti politici... sono vigliacchi in quanto sono uno solo. No, uno certo. Parla e sta tranquillo che quello che ha detto gli resta, perché agli altri non gli possono rispondere. Vabbè, no, sì, rimane il giudizio storico che uno può sempre vabbè, dare. Comunque. Lasciamo perdere. Il lui... giudizio storico lo lasciamo agli storici, non ai vandali. Parenzo ce l'ha con suo marito. Che no, ma non è che ce l'ho. Non frega niente di Parenzo, se ce l'ha con mio marito faccio silenzio e non parli per niente. No, ma io non è che ce l'ho con Stai zitto. Tutt'altro. Io faccio una considerazione di carattere puramente storico, non umano, figuriamoci. No, no, e non far arrabbiare che c'ha 30. Ma la lasci fare agli altri, gli storici che scrivono dei libri. Ma... Lei si preoccupa delle cose leggere. leggere, di quelle che non le impegnano molto. Esatto. Perché ho l'impressione che tutta questa grande intelligenza non è che esce dagli occhi, no? Quindi faccia, lascia gli storici che vivono, che vivono e che poi leggono, riscrivono, poi riscrivono gli altri. Ma chi riscrivono? Non si allarmi, non si stanchi, non è non mi stanco per niente, do una valutazione. Non rifletta, non rifletta, non rifletta. Non rifletta perché gli fa male, guarda, no. Si stanchi, non si stanchi troppo. Ma rispetto per la persona, ma si potrà dare un giudizio storico su alcune scelte? Ma non la fare arrabbiare che c'ha 38. Ma a me non mi interessa il suo giudizio, lo tenga per sé. E io me lo chiedo e lo dico, donna, ma c'ha 30. Ma c'è una riunione di persone, glielo dico, a me non me ne frega niente. Io lo dico alla radio. Ma c'ha 38 la signora Mirante, la vuoi smettere o no che c'ha 38? No, ecco, se non ho la febbre, non ha importanza, lo lasci parlare, perché tanto è talmente a vuoto che può parlare quanto vuole. Allora, io voglio dire una cosa, però. Se avete ricordato che adesso, secondo lei, costa difesa della razza, su, no. Dica qualcosa pure lei. Ancora, ma non ci annoi, che è proprio rincoglionito forte lei, Scusa. Adesso, basta, però. Basta, allora basta. Ti non dico... mi secchi, non stia a seccarmi. Oh, basta, su. Allora voglio dire una cosa. Niente, non ma si meraviglio per lei che è una persona intelligente, che se lo porta a fare a questo tipo. Che vuole fare? Ogni tanto uno sa... in cantina, no? Ogni tanto uno si accompagna anche. Siamo ammirato, ogni tanto uno adesso, però, purtroppo ci deve arrabbia, essere anche la spalla stupida, lei lo sa, no? Ma scusi, ma è. O dico falsità se dico che ha scritto per la difesa della razza. Ma non mi secchi, non stia a seccarmi. Basta con questa non storia. Non stia a seccarmi. Basta. Allora non ha mai scritto per la difesa basta! Della razza. Basta! Se lo secchi per sé, se lo tenga per sé, non la... faccio una storia, faccio un libro, se lo metta sotto il cuscino, ogni tanto se lo apre e se lo legge, perché essendo un uomo senza memoria, ogni tanto se lo ricorda. Ho talmente tanta memoria che lo febbre, ricordo. Basta, e su, dai David, abbi pazienza. Allora io dico una cosa, un'ultima cosa, poi la lasciamo perché veramente mi sembra una situazione assurda. Allora, però adesso secondo lei Fini che fa? Io non lo so, questo glielo bisogna che glielo chieda a lui, no? Ma non so, io non lo so. Lo vedo, non lo vedo da anni, quindi di conseguenza sono faccende che non mi interessano, che fa, che non fa, sono faccende proprie. Ma che futuro ha dal punto di vista politico? Glielo deve chiedere a lui. Ma lui dice che vuole prospettiva, no? Lui dice che vuole continuare a fare politica. E come? Con altri, ha rovinato 4 partiti, che ne fa un altro quinto? Beh, questo pure è vero. Perché lei dice 4, scusi? Perché uno era Movimento Sociale. Poi Il secondo era Alleanza Nazionale. Sì. Il terzo era il partito di Berlusconi, partito come si chiama lui. Sì. E il quarto era il FLI. Ah, è vero, ha rovinato 4 partiti. Sono 4 partiti. Magari ci vuole. Aspetta un quinto forse, no? Questo non è c'è male. C'è tempo, ancora è giovane, no? Scusi, lei è sempre la numero uno, signora Assunta Binante. Senta, ma... Siccome questo popolo ha bisogno di altri uomini, siccome quei grillini che sono arrivati non bastano, allora si farà un altro partito. Quindi saranno 5, 6. Io mi preoccupo per il capo dello Stato che verrà. Ah, vabbè, quello tutti come farà ad andare a ricevere in continuazione tutti questi, perché avrà un bel scusi, da pelare. Però parecchi, mi risulta che Fini avrà 6.000 euro di pensione come deputato e Rotti là 250.000 euro, circa 200.000 euro di buonuscita. Certo non morirà di fame, no? No, no, ma non è mai morto di fame. No? Comunque no, ma guardi che poi alla linea ci tiene pure lui. Sì, dice. Un po' di digiuno gli farebbe pure bene, no? In che senso, scusi? Ah, dice. Poi vabbè, poi c'è sempre quella casetta. Anche perché lui ama l'immersione, di conseguenza non ci possono essere uomini grossi, no? Nell'immersione bisogna che abbia più fiato e meno carne. No, non c'è dubbio, dunque comunque si deve mantenere in forma, no? Quindi lui ce l'ha, un passatempo, un mestiere ce l'ha. Un passatempo, il palombaro, diciamo, no? Ecco. L'immersionista, un mestiere ce l'ha. Quindi. E poi anche a Monte Carlo è un posto dove si possono fare immersioni, mi sembra, no? No, a Monte Carlo non si fa immersione perché c'è un mare orribile, quindi non è possibile. Vabbè, però lui le farà a Monte Carlo. No, non li può fare, no. Non può, non va in quella casa. Ma ci sono né grandi spiagge. Ma in quella casa non ci va, secondo lei, no? Ma lui no, penso che ci andrà, facendo su, io non lo so. Che storia triste quella, eh? Vabbè. Vabbè, non la ricordiamo. Donna Assunta, la ringrazio. Buonasera. Io pure, grazie, buona giornata. Vuole a voi. Vuole salutare Parenzo? Vuole salutare Parenzo? No, no, se lo tenga stretto stretto e non l'abbandoni mai, Sì, sì, non se lo abbraccio fortissimo. Se lo tenga scaldabagno. Come uno scaldabagno se lo tenga. È una persona talmente valida e talmente che la incoraggia, che lei non ne può fare a meno. Arrivederci, tante cose care. Arrivederci. Andrè, vogliono che mandiamo alla Merkel il boom. Al mio tre, boom. Allora, uno, due, tre, boom! Si svegliano per 800 24 00 24. Ti ho dato un'altra bella lezione la signora Almirante, eh. Boom, boom, boom, botte su, sì, Parenzo, botte. Ma mi, infatti mi dispiace dover ricordare le res gesta del marito. Capisco, ma l'amore. Basta con sta storia, sì. Ma per carità, va benissimo. Volontario della Repubblica Sociale Italiana, ma Prospero da Napoli, buonasera. Chi signor Prospero? Salve, buonasera. Buonasera. Salve, buonasera Cruciani, buonasera. Dica, dica, dica. Allora, io volevo intervenire chiaramente per dire, fare delle considerazioni su Grillo, che oggi si sente il podestà o il padrone dell'Italia, sì, perché vuole spingere sull'acceleratore su dei temi che poi, adesso che gli sono stati proposti, probabilmente non sa come meglio comportarsi. Anche il tuo amico Bill Emmott, ex direttore dell'Economist, Economist, dice: Grillo sveglierà l'Italia. Grillo sveglierà l'Italia. Vabbè, Pasquale, allora? Ma io non è che sono un secondo. Sì, l'Italia, no, Prospero, sveglia, sveglia l'Italia. L'Italia sveglia, vabbè, Prospero, che deve dire lei? Niente, voglio dire questo, che mi sembra assurdo che adesso che gli vengono dati degli, diciamo, degli appoggi, lui faccia ancora campagna elettorale. Sembra che ancora debba cambiare il disco, diciamo, ai suoi burattini, per poi fargli dire delle cose diverse. Adesso non sappiamo se è giusto o non è giusto quello che lui sta facendo, ma sicuramente ci sono delle persone che stanno aspettando che l'Italia, diciamo, riparta un pochettino. C'è gente che non lavora, c'è gente che ha bisogno, diciamo, di... Ma che vuole che gliene importi? Grillo farà campagna elettorale di continuo. Deve cominciare scusi, a ragionare. Allora, se uno, caro Prospero, se uno vuole seguire quello che dice Grillo, se vuole stare al programma di Grillo, va in Parlamento e presenta tre cose: l'abolizione del finanziamento pubblico dei partiti, l'abolizione dei vitalizi, e si mettono tutti i parlamentari. Io non sono d'accordo su questo, sui parlamentari tutti a 2.500 euro, attenzione, sia al finanziamento pubblico, toglierlo, sì, però Grillo vuole questo. Allora Bersani, vada da Grillo, dice io penso che abbia detto delle cose Bersani, che poi fa più comodo, diciamo, ma più che ha detto, non ha detto niente, provare... ha detto parole vaghe come al solito, vaghe, ma poi parole vaghe, ma è chiaro che le parole sono vaghe, perché è chiaro che le cose si dovranno fare in Parlamento. Gli deve spiegare anche ai suoi burattinelli che taglieranno i fili in Parlamento, quando si troveranno ad avere a che fare con la politica vera e con le proposte vere, che intanto devono appoggiare un governo, cioè, perché il PD non andrà mai col PDL, perché, diciamo, noi che siamo, io sono, non posso dire, un militante, ho 34 anni, sì, sono andato in giro da quando ne avevo 12 a fare, tra virgolette, politica nel mio piccolo, quindi posso dire che il PD non si allierà mai col PDL. E Grillo ha l'occasione per poter dare un peso concreto a quello che lui vuole fare, alla sua azione di governo, se così vogliamo dire. Vabbè, però, Norbert, lei parla peggio dei politici. Prospero, parla peggio dei politici lei. Norberto, no, D'Alecco. Ma peggio dei politici? Io sono grazie. Un ragazzo, no, politico. No, però dica delle cose più comprensibili, non parole generali. Io le ho detto tre cose. Grillo vuole questo. Ci stanno gli altri? Sì o no? Norberto D'Alecco, buonasera. Buonasera. Io vorrei dire due cose rapide. Premettendo che ho detto... nella mia testa la decisione era dare un voto utile, e quindi ho votato a destra votando il PD, quindi così chiariamo come la penso. Perché, no? PD a destra, scusi? Per me sì. Vabbè, comunque lasciamo perdere questa considerazione. Okay. Dunque? Detto questo, vivo in una regione che aveva l'opportunità di cacciare la Lega, e che per il Movimento 5 Stelle e per chi l'ha votato non la caccerà. Ma non gliene frega niente al Movimento 5 Stelle, evidentemente, di cacciare la Lega, abbia pazienza. Ma difatti il problema vero è che il Movimento 5 Stelle non gliene frega niente del fatto che quello che è successo sabato e domenica, io lo vedo... Sì, ma il problema non è del 5 Stelle, non ha capito ancora, ma non è del 5 Stelle. Non ha capito, il problema è per gli italiani che non hanno capito che, seguendo un patto scatenato che può anche avere delle buone idee, ma che a questo punto o va a Roma, le mette sul tavolo e fa politica attiva, cioè governa l'Italia, oppure se continua a fare quello che dice di no a tutto, manda a fare in culo l'Italia, perché quello che ci hanno fottuto quelli che c'erano prima, e io lavoro per un'azienda lei adesso sta americana. sta accusando Grillo che deve mettersi a fare quello che non ha mai fatto, cioè dire i piccoli tatticismi, la politica, gli accordicchi, le cose sotto banco. No, ma non è così. Lei ha appena finito di dire che Grillo deve mettere sul tavolo tre cose da fare, quattro cose da fare. Ma lo ha già detto, ma saranno cose che nessuno vuole fare, questo è il punto. Norberto, grazie, ma grazie. Io su questo non ci credo. E vediamo, comunque sia, se fa così, che dice che le prime reazioni è che loro si siederanno dietro per vedere gli altri se fanno gli inciuci, l'Italia nel frattempo non viene governata. Vabbè. Il risultato è che le email, che forse è meglio, non ci saranno più. Sarà un altro paese più piccolo, ma in Belgio sono stati diversi mesi senza governo, più o meno c'è stata stabilità, non è successo nulla di grave. 800240024, qui abbiamo uno di quelli che si è battuto, caro Parenzo, con Renzi, tu lo conosci bene, come uno spartano, Lino sì. Paganelli, buonasera. Buonasera. Come sta? Bene, si fa per dire. Senta, lei è ancora responsabile feste ed eventi del PD? Sì. O l'hanno fatta fuori dopo la sconfitta di Renzi? Ora non ci sono state feste e neanche eventi fuori dalla campagna elettorale, però... Ecco, questo lo dice con un pizzico di... Scusi un attimo, ma Paganelli, era previsto qualcosa la sera? Le avevano chiesto qualcosa la sera delle elezioni oppure no? No, sinceramente no. Beh, lei, perché forse non lo sa, ma qualcuno aveva organizzato qualcosa, una festa. Lei che è responsabile delle feste del PD. Democratica, io veramente. Quelle che vengono fatte con i volontari in giro per l'Italia. Cioè, ma mi dica la verità, era previsto qualcosa? Cioè, una festa a Piazza San Giovanni, a Piazza del Popolo a Roma? Nulla? No, io so che c'era questo luogo dove incontrare i giornalisti, la stampa. Basta, solo quello. L'acquario. Solo quello. Sì. Arrendetevi, siete circondati, arrendetevi, siete invisibili. Siamo qui la Zanzara con Lino Paganelli, responsabile feste, eventi e Partito Democratico, molto vicino a Matteo Renzi. Che deve fare Renzi, Paganelli? Aspettare i cadaveri che passino? Sì, no, attendere e aspettare il cadavere che passa, No, non penso che sia una cosa che gli si addice, non è un personaggio funereo, anzi è uno che si è dato da fare tantissimo anche in campagna elettorale. Bah, tantissimo adesso, Paganelli, non esageriamo, tantissimo. Penso che abbia fatto quello che gli è stato chiesto di fare. Beh, insomma sì, all'ultimo ha fatto 3-4 cose, insomma adesso tantissimo mi sembra un po' esagerato, Ma come giusto che sia, cioè d'altra parte, cioè, non è che poteva battersi ogni giorno fino alla morte, no? No, mi sembra che abbia avuto un calendario piuttosto ricco di appuntamenti, la gestione della campagna elettorale. Ma fa bene a stare zitto adesso, ad aspettare, qualcuno ha pensato che addirittura può essere lui l'uomo, la soluzione, insomma in questo momento deve stare fermo. Secondo me sì. Stare fermo, non fare nulla, nessun incarico, nessun ruolo. Ma questo è un momento particolare, ora al di là... sentito un po' della vostra trasmissione, le proposte, le provocazioni, le cose che stanno uscendo, non solo alla Zanzara, ma anche nei luoghi canonici, sì, nei giornali, certo, eccetera, certo. Escono più cavolate che cose serie. C'è, no? Per esempio Emiliano che dice l'incarico a Grillo. Sì, appunto, provocazioni, robe varie di varia natura. Beh, ma anche, insomma, anche l'approccio di Bersani, però diciamo la verità, anche l'approccio di Bersani, ma insomma lei sa benissimo cosa si sono detti durante la campagna elettorale. È vero che la campagna elettorale è una cosa e la politica è un'altra, però è anche vero che Grillo non è che cambia registro, non è che diventa istituzionale. Cioè, come si fa a fare un'offerta politica a Grillo? Su, Paganelli, diciamola tutta. È un errore o no aprire ai grillini? Diciamo che è un tentativo. Tentativo come? È un modo... disperato. Un tentativo di fare qualcosa, insomma, di dare un canale a... Non mi sia democristiano, Non mi no, sia... no, non sono democristiano, dico, cioè io. Ma che ne, tanto lei non, la... ha, non ha ruoli, non è che è deputato, non è in correnti, cose. È un tentativo disperato, diciamola tutta, su. È un tentativo di dare un senso a questa elezione, a queste votazioni che ci sono state. Ma poi è l'uomo giusto Bersani per fare un'operazione di questo tipo? Beh, lui è, come dire, come ha detto anche ieri, insomma, vabbè, utilizzando parole diverse, dal fatto che abbiamo perso e quindi abbiamo, diciamo, e comunque abbiamo l'onere della prova, ha sostanzialmente detto che queste elezioni non sono state vinte, ancora, pur avendo preso qualche voto in più alla Camera e qualche senatore in più al Senato. Renzi avrebbe fatto lo stesso discorso, secondo lei, di fronte a una cosa del genere, oppure avrebbe detto abbiamo perso, me ne vado? Pubblico che abbiamo sentito dire fare da Renzi è stato quello: ho perso, sto a casa. E la stessa cosa doveva fare Bersani adesso? Ho perso, me ne vado? Beh, adesso stavo dicendo prima, è un periodo strano, la campagna elettorale è vero, è finita, si è votato, però si continua la campagna elettorale in questi giorni. No, però e voglio dire, Paganelli, la si continuerà fino a fine, no, a fine, certo, marzo, d'accordo, però mettiamoci finirà la Quaresima e forse finita la Quaresima si riuscirà ad avere. Però mettiamoci di fronte a due personaggi, Bersani e Renzi. Allora, Bersani ha detto una cosa, vuole fare un tentativo, pur avendo sostanzialmente Tocca farlo, tocca sì, però diciamo la verità, Paganelli, diciamolo, Bersani ha perso, su, politicamente ha perso le elezioni. Abbiamo perso, il PD ha perso. E poi, Bersani pure politicamente, lui in persona ha perso. Su, certo, ha perso anche lui. Certo. Ha perso lui, no. Soprattutto Bersani, è il leader. È il leader, dunque ha perso Bersani, ha perso il PD, ha perso Bersani, nonostante che numericamente la situazione sia diversa. Ora, Renzi avesse preso una scoppola del genere, perché è una scoppola, perché le ambizioni erano altri, governare il paese, il cambiamento, la maggioranza al Senato, sì, forse anche l'aiuto di Monti, qui tutto è stato costretto dopo un giorno ad aprire a Grillo, uno che gli ha dato del parassita due giorni prima, ma lei si rende conto... Però è anche, cioè, ragioniamo, ora possiamo dire tutto quello che vogliamo, no? E capisco quello che sta dicendo lei. Però ragionando realisticamente, qualcuno dovrà governarlo questo paese. No? Okay, ho capito, non si può andare al voto domani, non si può andare al voto dopodomani, non si potrà fare prima dell'autunno probabilmente. No, è così, non lo so, o si cambia la, o qualcuno ma cambia la, secondo lei il PD deve cambiare uomo per gestire questa frase, oppure questa fase, oppure può essere Bersani, Paganelli? Ma, questo è l'uomo che ha scelto il PD e sarà l'uomo che gestisce questa secondo lei, però fondo, lasci perdere le analisi, secondo lei no, secondo me uno accetta una cosa e la fa fino in fondo, La fa fino in fondo. Abbiamo fatto le primarie con lei vuole la morte politica di Bersani fino in fondo, questa è la realtà, lei vuole la distruzione politica di Bersani fino a quando il cadavere non passa definitivamente, allora a quel punto qualcuno dice senti, Renzi, è una morte politica, cioè, c'è stata una scelta, quella scelta va portata, ho capito, ma le fasi politiche non sono tutte uguali, no? Cioè si cambia anche a un certo punto si cambia cavallo perché c'è un'altra fase da gestire. Comunque Renzi, sì, secondo me c'è una coalizione, questa coalizione ha avuto questo esito qui, ci sarà. Senta Paganelli, un'altra cosa. Sì, un'altra cosa, il presidente della Repubblica che la saprà probabilmente gestire. Vabbè, quello lo sappiamo però, presidente della Repubblica. Senta, ma alla fine il Partito Democratico, per come ha fatto la campagna elettorale, le primarie, anche tutto, se lo merita Grillo, secondo lei? Se l'è un po' meritato alla fine Grillo, questo si può dire, ce lo siamo meritato, ce lo siamo meritato. No, io sinceramente... Vabbè, se dice manco questo, va bene. Perché ce lo siamo meritati Grillo? Per come sono andate le primarie che hanno... Insomma, per gli esiti di tutto. Per gli esiti di tutto. Per il risultato, non per il fatto di averle fatte. Per come sono state gestite e poi per come è stata fatta la campagna elettorale, alla fine ce lo siamo meritato noi del PD Grillo, o no? Beh, un po' sì. Un po' sì. Siamo meritati, cioè, io sono sempre dell'idea che quando si porta a casa un risultato negativo ce lo siamo sempre meritati, come a volte, però Grillo positivo. Certo, Grillo pure ce lo siamo meritati, alla fine il risultato negativo sta nel fatto che Berlusconi è riuscito a risalire una china che sembrava ormai arrivata al punto di non ritorno, e Grillo è riuscito a essere il primo partito. Senta, in questi giorni si parla molto, poi la lascio, di una cosa, no, se ci fosse stato, se le primarie andavano in un altro modo, è il se e i ma, d'accordo, Però in fondo io per esempio lo penso, penso che Renzi, con Renzi sarebbe stato tutta un'altra storia, che Berlusconi probabilmente non si sarebbe candidato, che Renzi avrebbe vinto secondo me con un larghissimo margine su un avversario, sugli altri avversari, eccetera eccetera eccetera. Lei che e è stato questo, e lei la pensa come anche alcuni sostenitori di Bersani. Ho visto stamattina il sindaco di Bologna, altri in giro che sì, il sindaco di Bologna dicono che era un sostenitore di Bersani ed è ancora forse un sostenitore di Bersani. Ma lei come la pensa? Sarebbe andata? Io penso, diciamo così, che per le caratteristiche dell'uomo, per il discorso pubblico che ha portato avanti Renzi e quant'altro, certo che sarebbe stata tutta un'altra storia. Avremmo vinto in carrozza, diciamo la verità. Io ho sempre avuto questa idea qui. Avremmo vinto in carrozza. Sì. Avremmo vinto Sono un seguace di Dalimonte, diciamo. Seguace di Dalimonte. Senta, Pagarelli, invece mi è venuto in mente una cosa. A parte che Antonio Polito scrive su Twitter, secondo me giustamente un segno dei tempi, il fatto che Berlusconi sia per l'unico con la testa sulle spalle perché offre un governo di responsabilità, ovviamente lo fa prodomo sua, è evidente. Di questo non ho capito chi. No, Antonio Polito scrive su Twitter, è un segno dei tempi il fatto che Berlusconi sembri l'unico con la testa sulle spalle perché propone un governo di apertura, mentre Bersani apre a Grillo, che è un paradosso perché in realtà Grillo è più vicino a Berlusconi che a Bersani dal punto di vista, come dire, caratteriale, politico e tutto. Però lasciamo sembra un comunista Bersani oggi, sembra. No, sì, però scusi, no, sembra un? Un comunista. Perché dice? Berlusconi. Ah, Berlusconi, sì, certo. Sì, un discorso... Sì, ortodosso serio. L'analisi, no? Sì, esatto, bravo. Senta una cosa, lei farebbe più un accordo col PDL o con Grillo, fosse per lei? Pronto? No, mi sembrano tutte e due le cose, sinceramente. Mi sembrano impossibili tutte e due le cose. Impossibili? No, ma fosse per lei più ragionevole fare un accordo col PDL o un accordo con Grillo che... Ma io penso che alla fine la cosa più sensata sia quella di trovare una maggioranza su alcune cose, e a cominciare da una legge elettorale nuova. Ma con chi questa maggioranza? Ho capito, non con chiunque, bisogna passare per una fiducia, cioè ci sono delle procedure, cioè bisogna scegliere, Bersani deve scegliere o faccio una trattativa con Berlusconi o la faccio con Grillo. Il problema della fiducia è che adesso è la fiducia, Grillo non la vuole votare. Appunto, no? Non la vuole votare, certo. Però serve, perché non è, molti l'hanno detto, non è Crocetta lì, lui è stato eletto del... Ma è diverso, diverso. Esatto, il meccanismo è diverso, siamo in un altro sistema. Intanto ci sono dei fiorentini, una giovane fiorentina che si chiama Viola Tesi, ha 24 anni, che ha lanciato sul web una petizione: caro Grillo, dai la fiducia al governo per cambiare l'Italia. Insomma, tra i grillini non c'è tu, però non cambierebbe nulla la sostanza. Vabbè, Pagarelli, lei non sceglie Berlusconi, trattativa con Berlusconi o con Grillo? Non si può stare lì a dire chi, cioè non è che uno può avere l'incarico, chi mi vota in Parlamento va bene, la fiducia la si ottiene. No, ma infatti io questo scenario lo vedo proprio impossibile. Io non penso che il Presidente della Repubblica, soprattutto questo Presidente della Repubblica, mandi qualcuno a giro per la Camera a cercare una maggioranza. No, ma certo, non certo. L'ha mai fatto, non vedo perché lo debba fare adesso, quindi mi immagino che questa fase di effervescenza, anche sì. un po' troppo frivola, a un certo punto finisca e si comincia a pensare seriamente. È l'unica ipotesi possibile, è un accordo col PDL, mi sembra di capire dalle sue parole, o no? No, è l'unica cosa possibile, probabilmente sarà quello di trovare un accordo su alcune cose prima di tornare al voto. No? Ma con chi questo accordo? Ho capito, ma ci deve essere un governo in carica che passa per una fiducia, per una cosa, cioè altrimenti non si può... Cioè, perché eludere? Adesso, tolta la adesso non c'è niente. Tolte le scorie della campagna elettorale e della battaglia elettorale, il PD è più vicino al PDL che Grillo, diciamo la verità. No, assolutamente no. A me sembra che col PDL, insomma, il tentativo c'è anche stato. In quest'anno passato, governo tecnico, c'era una cosa dove stavano insieme il PD ed il PDL. Vabbè. Si è portato a casa qualcosa, no? Dal punto di vista la riforma della legge elettorale è stata la cosa più accantonata. Poi sulla legge elettorale bisogna fare un discorso. E di conseguenza va trovata, diciamo così, un'idea che può essere quella di cui si parla in questi giorni, il doppio turno alla francese, bla bla bla, che assicuri governabilità e che sia quella, quella cosa che ci risolleva. Vabbè, di fronte a... Secondo me appena uno va per strada e chiede la legge elettorale, la gente prende la pistola e spara. Se conosco bene Paganelli, come lo conosco e lo stimo, quello che ci sta dicendo Paganelli è quello che si profila, è un governo Bersani, chiamiamolo così, di minoranza. Ma non si può, c'è la fiducia di tutte le forze parlamentari. Ma non si può, non si può. Si chiama... A me dispiace che tu non sappia proprio un cazzo. No, non si può, non si può fare, non si può fare. Deve passare la fiducia, non si può fare, non si può fare. Un governo Bersani di minoranza con l'astensione delle forze parlamentari. Qui è un governo di scopo, qui ci sono 3-4 Ma non si può fare, non si può fare tecnicamente. Bisogna passare alle elezioni. Bisogna passare per la fiducia del Senato. Ci vuole qualcuno che... Alle elezioni neanche si può andare, però ci sono anche altre formule. Vabbè, quelli del presidente, quelli... Sì, esatto, bravo. Ora, ora, no, non siamo nella Prima Repubblica. Zanzara! C'è una zanzara! Riccardo, provincia di Torino, buonasera. Buonasera, Cruciani. Quanta diplomazia. Complimenti per la trasmissione. Dica, dica. Ma innanzitutto io volevo dire questo, ecco, che la, l'indignazione di queste ore nei confronti delle dichiarazioni rese dal candidato, mi pare, dell'SPD in Germania, sono, cioè, la trovo del tutto fuori luogo, innanzitutto dal Presidente della Repubblica, ecco, che ha personificato questo attacco verso tutto il popolo italiano. Non era un attacco rivolto al popolo italiano, era un attacco rivolto probabilmente a due candidati, Berlusconi e Grillo, che... Sa quanti elettori rappresentano? A parte assolutamente, che, a parte che la cosa sarebbe stata valida anche per piccoli leader o leader di partiti piccoli, in ogni caso, ma sa quanti elettori rappresentano insieme molti, Grillo e Berlusconi? Molti. Allora, ma io penso che un lui signore considerato... che si chiama Steinbrück è un tedesco leader della SPD che non sa probabilmente un cazzo dell'Italia. Ma che c'entra? Aspetta, che probabilmente non sa un cazzo dell'Italia, si permette di dire pubblicamente adesso devo ritrovare bene le dichiarazioni, che in Italia ci sono due leader, hanno eletto, hanno votato due clown, è leader di un partito, uno è tranquillo, uno è un comico, ma stai tranquillo, potrò esprimere una valutazione su quello che dice il signor Steinbrück, no? Dai, tranquillo, uno tu è un comico, l'altro è un comico con un alto tasso di testosterone. Ora queste cose qua le possiamo dire io e Parenzo qui alla Zanzara. Ma chi l'ha detto? Va bene, allora va benissimo, beccati pure. Stai anche dalla parte di Steinbrück, va benissimo. Stai, mettiti dalla parte di un tedesco che rompe le scatole in questo modo. Vai, vai, vai, tranquillo. Pratico. Quante volte Berlusconi ha criticato nei mesi passati, ad esempio, il signor Sarkozy in Francia? Ma non è che gli ha dato del volte, ma comunque ha sbagliato. Ma comunque allora, i francesi potevano incazzarsi giustamente. Ma che incazzarsi, che cosa? È normale nella dialettica politica che il leader di un partito, anche di uno stato estero, vabbè, dunque, ha sbagliato Napolitano. Va bene, ha sbagliato Napolitano. Ma no, ma Napolitano è ovvio che deve difendere, che dice il capo dello Stato, è ovvio che dice devo difendere l'onore del paese, va benissimo. Ma questo signore è il leader di un partito. Va bene. Potrà valutare, scusami, quando ci fu, ma va bene, ti sta bene. Ti sta bene quello che dice Steinbrück. Scusami, ma va benissimo. No, ti faccio un altro esempio. Ci fu il caso Haider in Austria, molto molto ma tempo fa. Ma che c'entra fa, il caso Haider adesso? Cosa c'entra? No, mi senti, non si attaccarne. Ma lei appena sente Haider, Almirante, subito parte in difesa. Lo capisco, perché anche Haider era, voglio dire, uno xenofobo, quindi va benissimo. È proprio rincoglionito forte lei, eh? Ma io, per carità, donna sua, non ce l'ho con lei. Ricordo la storia e alcuni passaggi, poi faccia quello che vuole. Dopodiché Haider era, come dire, sbeffeggiato da tutti i leader europei, era un uomo che faceva paura e ogni giorno i partiti in Italia, in Francia, in Germania lo attaccavano. Dice: attacco alla sovranità austriaca. Va bene, se tu riesci anche a dare ragione al signor Steinbrück per questa cosa qua, ma va bene, ma va è benissimo. Il leader di un partito ha fatto una valutazione va su bene, un voto di cosa è l'ingerenza, che cavolo, l'ingerenza. Ma non è l'ingerenza, ma non nessuno dice avete niente. Avete stufato con questo politicamente va bene, corretto. Difendi Steinbrück, così. vai all'estero, alla grande. Ci vedono così. Vedo che continui a non capire un cazzo. Traffico, vabbè, intanto traffico. Tu Marco comunque... Sei fuori al Parlamento e hai preso meno, Pannella... Caro Marco, hai preso meno di Forza Nuova e del Partito dei Lavoratori del signor Ferrando, capito? Con lo 0,4, 0,6 o quello che è, hai ridotto il Partito Radicale Italiano a essere inferiore a Forza Nuova e al Partito dei Lavoratori di Ferrando. Dunque non c'è molto da sorridere su questa cosa qua. Bacio, non c'è molto. Bacio. Allora, un mio amico Rocca su Twitter, che magari voi non conoscete, ma vi dico, un mio amico su Twitter, Cristian Rocca, scrive: pensate a quale indignazione, sdegno e post-it se al posto di Bersani ci fosse il cavaliere senza maggioranza e pateticamente in ginocchio da grillo. Cioè, voi immaginate la scena, il cavaliere senza maggioranza al Senato, che sta lì a fare proposte, a corteggiare, a lisciare il pelo a grillo. Voi pensate, immaginate quello che poteva accadere, le petizioni all'ONU, la richiesta di intervento dei caschi blu, il Consiglio d'Europa, tutti i leader democratici del mondo chiamati a ripetizione per il pericolo democratico, il pericolo che incombe sull'euro, un inferno. Parlare, non gridare, tu sei come una. Comunque, sì, dimmi, dimmi. Quando parlavo, adesso lui si arrabbia subito, vedrete ascoltori come impazzisce, non mi interessa. Quando parlavo di un governo di minoranza, intendo anche dire che siccome al Senato l'astensione equivale al voto contrario, quindi al no, quello che si può immaginare è anche una che uscita... escono dall'aula. Sì. Esatto, esatto. Sì, ma tu lo sai che cosa potrebbe accadere però in contemporanea? Che sì, ogni tanto... No, no, ma ti quando, dico, siccome quando, non hai studiato bene, ora ti dico... Quando colori il busto di tanto Almirante, Grillo, intanto Grillo ha appena detto, ora Bersani farà un patto con Berlusconi. Cioè Grillo vuole in realtà un accordo tra Berlusconi e Bersani. Beh, certo. Per approfittare e gridare all'inciuccio. Però aspetta un attimo, tu lo sai cosa può accadere in questo caso, sì. Che in realtà... la cosa è molto semplice, perché escono i grillini, no? Sì, se esatto. Mai ci fosse un accordo, mai, perché uscire significa accordarsi prima, no? Tu no, esci... no, perché per loro comunque sarebbe un exit strategy straordinario, dire noi non partecipiamo. Senti, a questa caro mio, l'uscita è semplicemente per far, in teoria sarebbe per consentire a Bersani di avere la maggioranza al Senato. Ma ne uscirebbero bene, perché poi stai tranquillo, non hai capito balle. Niente, perché, no, perché non hai capito, perché lo sai come si può evitare questa cosa, molto semplice, escono pure quelli del PDL e della Lega e dunque non c'è il numero legale, arrivederci e grazie. Ma no, leggi, quelli avrebbero invece... Non hai capito, leggi bene, leggi i tecnici su questa cosa. Se escono anche se esce anche il centrodestra dall'aula, vabbè, ovvio. Non c'è nemmeno il numero legale. Vabbè, dunque, questo è normale, non, evidente. Non è evidente. Dunque, quello che dici tu non ha senso, perché è una condizione che non ci può essere. Ci può essere. Non ci può che... essere. Escono tutti e non c'è il numero legale, dunque non si ottiene la fiducia lo no, stesso. Può esserci l'interesse anche del PDL a votare una legge elettorale diversa, in modo poi in futuro da arginare il fenomeno velo. E vabbè, anche questo sarebbe antidemocratico. Nicoletta ovviamente. Da Bologna. Nicoletta da Bologna. Lui ride tanto. Nicoletta buonasera. Da Bologna. Sì, sì. E che devi fare? Insomma, se Bersani non fa il governo è la catastrofe. Prendessero un altro, è andata male. Scegliessero un'altra strategia, un altro. Ma un altro, sceglie, è cambiato tutto. È cambiato tutto. Allora chiamate Massimo Boldi, ma la vuoi smettere? Nicoletta da Bologna, buonasera. Ma di cosa parli? Nicoletta da Bologna. Chiamassero un altro, come fosse un tramvice. Esce uno, vai, arriva vai, un altro. Vai. Fare cane e gatti, voi due mi fate ridere. Niente, io vorrei un minimo di scusa dal PD. Perché? Perché io li ho votati. Beh, a Bologna mi hanno detto che il 50% dei voti del Partito Democratico, credo con riferimento alle ultime, eccetera, sono passati a Grillo. Io sono stata fortemente tentata. È bello, me la capisco. Sinceramente, poi ho ceduto al discorso del voto utile, ho votato tappandomi il naso come ho fatto da troppe volte. Ma quello che mi fa rabbia, ma dove vive sta gente? Che cosa che pagano dei sondaggisti per avere dei dati sbagliati? Ma glieli faccio io i sondaggi, tra l'altro sono anche laureata in statistica. Beh, era difficile per tutti stavolta, Nicoletta, soggettivamente era complicato per tutti. Era complicato che, per tutti. Che Berlusconi aveva rimontato, si sentiva. Che Grillo di gente ne aveva, si sentiva. L'hanno sottovalutato, ma parecchio. Non, un partito che è sempre stato in mezzo alla gente, che ha sempre ascoltato e venuto dalla gente, che non sappia capire e sentire il cosa dice la gente e si circonda solo da chi gli racconta la favola. Mi sembra un po' la storia del re nudo, che tutti gli raccontano che è vestito bene, che è vestito bene, ma nessuno gli racconta la realtà. Di come siamo un po' incazzati tutti. Ho capito, grazie Nicoletta. Pasquale da Napoli, buonasera. Buonasera, buonasera. Sono pienamente d'accordo con Parenzo. Innanzitutto il pazzo Grillo, e mi consenta, ci sta portando quasi alla rovina. Noi stiamo pagando debiti ogni giorno. Lo dica, se non vuole il governo, o comunque non vuole fare un minimo di accordo, andiamo ad elezioni. Però sarà lui il responsabile, noi paghiamo perché lui è un capitalista e lui non ci metterà poco, perché adesso Monti già ha pronto l'aumento dell'IVA, ha pronto già un altro aumento dell'accise sui petroli, perché oggi, giorno per giorno, continuiamo ad accumulare debito. Dico io, quelle 3-4 cose che anche lei sta citando, perché non ci mettiamo d'accordo e farle, visto che abbiamo tutte le opportunità? E siamo così sicuri poi che quei 150 eletti non si vedono un giorno aumentare il loro stipendio di botto e dicono ciao ciao al pastore Grillo? Noi dobbiamo essere concreti, non possiamo andare nell'utopia più assoluta. E un attimo solo, un attimo. Servizi di segreteria telefonica. Mario da Verona, buonasera Mario. Buonasera. Dica, due cose veloci. Sì. Tesserato del PD, sono d'accordissimo con Emiliano. Voglio che Bersani vada da Napolitano a proporre Grillo presidente del Consiglio, in modo che è Bersani che aspetta il cadavere di Grillo insieme a quello di Cruciani passare. Perché il mio, scusi? Beh, insomma, lei è un grillino scritto. Grillino sarà lei. Ritiro quello che ho detto. Io non sono mai stato né grillino, né berlusconiano, né bersaniano. Va bene, chiedo scusa. Non deve chiedere scusa, è una precisazione. La seconda cosa, mi permetta Cruciani, sì. La seconda cosa è che gli italiani, come si fa a dare un quarto degli italiani, poco meno di un quarto, votare ancora Berlusconi? Vuol dire che gli italiani devono mangiare tanta M e andare a finire come nel 45, se vi ricordate storicamente, l'Italia era in rovina e poi sono nati De Gasperi, i Pertini, i D'Amalfa e hanno rifatto dalle cene l'Italia. L'Italia deve tornare a mangiare merda. E allora forse capiremo qualcosa, i Berlusconi li manderemo a casa, i Grillini li manderemo a casa. Grazie Cruciani, buonasera. Lei ronza un po' di qua, poi ronza un po' di là, e tu lo sai che prima o poi potrà colpire. Non rilassarti mai, lei non dà tregua sai, finché non punge lei tranquilla non sarà. Pomate a volontà e spray senza pietà. Questo siamo diventati la terza, la seconda, la prima forza politica del paese, è fantastico! E la zanzara che arriva ogni estate in città, e la zanzara che punge e poi se ne va, si chiama Tigre oppure... Alex, provincia di Bergamo, buonasera. Buonasera a tutti, salve. Vada. Niente, io vi volevo porre una piccola questione. Semplicemente vi pongo in visione gli ultimi 20 anni di politica italiana, dove mi pare che in gli ultimi 11 da parte della sinistra, sì, e 9 governi, sì, sono stati in mano alla gente che tuttora si è candidata alle politiche. Diciamo. Vabbè, allora? Io credo semplicemente che molta gente si ponga dei giudizi sul Movimento 5 Stelle e credo che tutto sommato questo movimento, per quello che sta facendo sia in Sicilia e nel comune di Parma, sia sotto gli occhi di tutti e al di là del giudizio della gente che viene dato a Grillo, che è una persona molto, diciamo una persona che fa molto colpo sull'opinione, Credo semplicemente che bisognerebbe, in un paese coerente, e lo dico per il bene sia della sinistra sì. che della destra, allora? Dovrebbero, penso che dovrebbero scindere a questo punto, visto che il governo è ingovernabile. Ma scindere cosa? Con la legge, grazie alla legge del Porcellum che è stata sì, ancora vabbè, fatta dalla destra, cosa? Dalla sinistra. Scindere cosa? Scindere le coalizioni, perché sono frutto del Porcellum che hanno... che in tutti ho questi capito. Anni non hanno portato ma a nulla. Ma le coalizioni sono già di fatto divise, che ne dica il Partito Democratico e il PDL. Il PDL ragiona praticamente come se la Lega non esistesse, per cui in realtà ma non questo, esistono queste coalizioni. Questo è il suo parere, perché mi pare che il PDL a livello stato... nazionale, il PDL ragiona come se la Lega non esistesse. La Lega non gliene frega nulla del PDL a livello nazionale e viceversa. Per cui il PD sì, adesso dice che vuole continuare con Sel, però insomma, poi vediamo. Ah, mi scusi, ma il PD mi pare che conterà molto sulla Lega, visto tutti i senatori che porterà in il Parlamento. PD, ma chi? Il grazie PD? A chi? Aver vinto le regionali Lombardia. Ma chi? Che c'entrano le regionali Lombardia con i senatori, scusi? Per il premio di maggioranza, dice lei. Non è niente, secondo lei, questo? Sì, sì, però insomma non mi pare che le due agende in questo momento, i due percorsi del PDL e della Lega a livello nazionale coincidano. Grazie. Pablo da Milano, buonasera Pablo. Buonasera, buonasera. Guardi. Sì, chiuda la radio, chiuda la radio. Allora, io ho 40 anni, quindi ho qualche votazione l'ho già fatta e ho sempre annullato il voto. Questa volta ho votato Movimento 5 Stelle, però sì. vorrei far capire che già a oggi, senza aver lavorato, sta gente ci ha fatto già risparmiare quasi 100 milioni di rimborsi elettorali che non si prenderanno. Si sono già dimezzati, comunque si dimezzano lo stipendio, quindi un risparmio già ce l'ha andato. Punto primo. Punto secondo, che Bersani e quella devono proporre chi è... Sacchebondo e Bondo, chi è al governo o comunque presunto governo è quello che deve fare le proposte. L'opposizione che hanno adesso è un'opposizione costruttiva. Un attimo. Io appena sento opposizione costruttiva. Pronto? Sì, buonasera. Casa Battelli? Sì. Salve, cercavo Sergio, signor Sergio Battelli. Sergio Battelli, sono 8 anni che è morto. Ah, mi scusi signora, prego. mi perdoni, arrivederci, grazie. Non mi molesti moschito, non mi molesti moschito, non mi molesti moschito. Vabbè. È un omonimo del deputato, signor Battelli. No, questo ho capito, cioè, è gente comune, quindi si trova sull'elenco. Esatto, si trova sull'elenco telefonico. Non è che uno può andare a... Siccome questi sono gente comune portata in Parlamento. Semplici cittadini, ovviamente chiediamo perdono. E... No, questo chiaro. Lorenzo da Lecce, buonasera. Però penso te la sfortuna tra tutti. Lo so, anche voi fare. Proprio. No. Lorenzo! Sì, pronto, buonasera, mi sente? La sento, dica. Sì, grazie. Niente, volevo fare solo una considerazione riguardo alle ultime elezioni. Sì, rapido però, Sì. Sì, Bersani. Sì. Io ritengo che sia l'unico sconfitto di queste votazioni, perché ancora una volta Silvio Berlusconi è riuscito a rimontare un'enormità di punti percentuali nei confronti del PD. Il Movimento 5 Stelle è stato il primo partito, diciamo, alla Camera. L'unico perdente è Bersani. Sì, non io c'è dubbio. Non c'è dubbio. Ecco, sì, appunto. Beh, Ingroia, Bersani, Ingroia, eccetera. No, vabbè, Ingroia, nessuno si aspettava qualcosa da Ingroia. Sì, no, Bersani è grande sconfitto. Giannino, né da Giannino. Bersani grande sconfitto, guardi, lei ha perfettamente ragione. Io mi aspettavo un senso di responsabilità da Bersani, dimettersi. Sì, ma certo, non c'è dubbio. Io solo questo mi aspettavo. Invece, come al solito, hanno ancora una volta confermato la loro voglia di potere, dare retta ai soliti dinosauri, Bindi, D'Alema e compagnia bella. Così il PD non andrà mai. Hanno rifiutato, non andrà mai da nessuna parte. Hanno rifiutato il nuovo con... Allora, intanto mi sembra di poter capire, grazie Lorenzo, che questo tentativo di avvicinamento a 5 Stelle è morto dopo nemmeno 24 ore. Sì, capita a tutti di fare queste figuracce. Ogni tentativo di persuadere il movimento a partecipare a un governo è falso, lo ha detto Grillo alla BBC. il Movimento 5 Stelle deciderà se supportare leggi specifiche caso per caso. Ora sfugge a Grillo il fatto che bisogna comunque formare un governo, tutte queste procedure, come io pensavo, sfugge, non gliene frega assolutamente nulla. Comunque nessun patto, in realtà punta a che cosa? Punta al fatto che PD e PDL fanno una cosa insieme, dopo un anno si torna a votare e lui piglia il 50%. Questo è il programma di Grillo. Cambieranno la legge elettorale per forza. Vabbè, cambieranno la legge elettorale per forza, non sarà facile, non sarà facile, forza, perché lui griderà allo scandalo, all'inciucio, alla vergogna, eccetera, eccetera. Fernanda da Cagliari. Buongiorno, buonasera. Dica. Volevo dire semplicemente una cosa. Che ingroia che ha messo il suo nome così grande, in fondo non ha vinto niente, no? Ma chi ha votato Grillo, cioè chi ha votato il Movimento 5 Stelle, ha votato anche Grillo, perché c'era scritto Beppe Grillo in piccolo. E allora? Allora io credo che lui ha tutto il diritto di rivendicare, anche se sembra uno scherzo. Rivendicare cosa? Di andare in Parlamento. Ma non gliene frega niente di andare in Parlamento a Grillo, non ha capito ancora, Fernanda, cioè guida tutto da una casupola nel litorale ligure, vicino Genova, sta lì con Casaleggio a decidere, a manovrare, a fare, a sbertucciare, non gliene può fregare di meno di andare in Parlamento lì a mischiarsi le carte d'identità, la cravatta, la giacca, che gliene frega a Grillo di andare in Parlamento? Nulla. Balda Napolitano per umiliarlo, vuole andare a fare, un attimo solo, vuole andare da Napolitano per umiliarlo. Per umiliarlo. Pronto? Sì, Casabatelli? Sì. Buonasera, cercavamo Sergio. Sergio non c'è. Lo so, qui Radio 24, sì. Buonasera. Ma ci ha telefonato, eh? Ah, abbiamo telefonato, mi scusi, perché abbiamo tanti numeri, No, mi ha telefonato una signorina Laura. Ah sì, certo, non c'è dubbio. No, sì. Abbiamo tanti numeri, sa, ci siamo confusi evidentemente. Vale. Senta, dov'è che possiamo trovare suo figlio? Io guardi, gliel'ho detto, ma mi sono fatto lasciare il numero di telefono. Sì. E poi glielo dico a lui se vuole rilasciare qualche intervista. Ma lui è a Roma, è andato? No, non è ancora andato. Non è ancora andato a Roma? No. Ma lei è il padre, scusi se glielo chiedo. Padre. Sì, è contento naturalmente, no? Certamente. Un bel colpo, su. L'orgoglio c'è. L'orgoglio c'è. Poi anche lo stipendio, no? No, lo stipendio, lo sa che sono dimezzati lo stipendio loro, eh? Beh, non già dimezzato non è... solo per stipendio, Beh, guardi che lo vogliono portare addirittura a 2005, altro che dimezzato. No, 2005 è quello che hanno chiesto loro, hanno dimezzato al 70%. Sì. Non è che prendono 12.000 euro come gli altri, né? No, però 2,5, cioè più che dimezzato. 2,5 è come una non so, un qualche è un dipendente, 2,5. Ma è giusto secondo lei? Giusto che se lo sono abbassato, è quello che è giusto. Però 2005 è troppo poco, dice lei, troppo poco forse. Sì, forse. No, non è troppo poco, va bene, perché? No, perché è poco, 2005 è poco. Si può anche vivere con 2005, non è che non si può vivere. Però i parlamentari 2005, su, è troppo poco, dai. Perché è troppo poco? Vabbè, comunque... Possono vivere loro, possono vivere anche quelli che prendono, sì, 12.000 euro. Ma lei l'avrebbe mai, lei, signor Luigi, l'avrebbe mai pensato in vita sua che suo figlio diventasse deputato? Quanti anni ha? 30 anni? Quanti anni ha suo figlio? Io? Mio figlio? Mio figlio c'ha 30 anni. Ma non avrebbe mai pensato che un giorno deputato della Repubblica? No, non avrei mai pensato, però nella vita... Nella vita di tutto. Cioè. Però lo sa che è impensabile, sì, può anche realizzarsi. Lo sa che sulla rete ci sono pure dei video in cui suo figlio, mi sa che bisogna fare un'operazione là, un po' erotici, un po' in cui lui dice bisogna mettere le dita. Sono filmati molto molto vecchi. Però quando era un ragazzo che scherzavano con degli altri. Lo so, forse, no. Forse è il caso di toglierli o no. Vabbè, ma voi no, non è, dovete andare a cercare certe cose. Insomma, perché dovete andare a cercare certe cose? I deputati bisogna che siano trasparenti in tutto, qui la grande casa. Deputati è adesso deputato. Quello che è successo prima, con queste cose qui, bisogna lasciare perdere. Quello che era prima lasciamo perdere. Quello che verrà dopo che bisogna vedere. Beh, insomma, sa, non è proprio Grillo, non è che la pensa così, eh. Comunque, vabbè. Sì. Senta, signor Luigi, io mi complimento innanzitutto per queste lezioni. Mi voglio complimentare, le faccio tanti auguri. Poi ci mette in contatto con suo figlio. Lo vogliamo. Va bene, grazie. Arrivederci, grazie. Arrivederci. L'orgoglio di un padre. Queste ombre sulla strada. Mi sento un po'. Ogni tanto mi sento un po' uno stronzo, Parenzo. Uno sciacallo, com'è che dice? Povero padre che non... Vabbè, comunque no, è stato gentile anche, dai. Beh, ma non ha detto niente di particolarmente eccitante. È il padre che ha espresso gioia. Sì, gioia. Per questo figlio è detto che... 2.500, che... è giusto guadagnare 2.500, si può campare anche con 2.500. Se gli piace così, questo va benissimo. Io non è questo che contesto. Senti, Vendola, il Movimento 5 Stelle sono di sinistro, Grillo ricorda Pannella. Certo che Vendola, pur di fare un governo con Bersani, Grillo farebbe qualsiasi cosa. Vogliamo ripescare anche delle frasi, ma ripescheremo domani, c'è tempo, di Vendola contro Grillo in campagna elettorale. Ma quello è normale. Quando la zanzarina... Se Grillo vuol far politica, fondi un partito, metta in piedi un'organizzazione, si presenti all'elezione, vediamo quanti voti prende e perché non lo fa. E infatti l'ha fatto alla fine. Vendola su Grillo in campagna elettorale. Berlusconi e Grillo siano, diciamo, tra di loro complementari e rappresentino un magma di subculture populiste. E oggi con Grillo che apre ai fascisti di Casa Pound siamo davvero a una disvelazione, a un'epifania. Ma tu ti rendi conto, no? Un giorno dopo, subcultura populista. Cioè, Grillo è espressione di una subcultura populista. Questo ha detto Vendola qualche giorno fa. Oggi dice che Grillo è uguale a Pannella. No, ma c'è la pragmaticità. Ma io ti dico, ma sì, ma ho capito, ma si può dire tutto, però abbi pazienza. Abbiamo impiccato chiunque alle contraddizioni, alle cose. Adesso mi viene a fare la predica su Vendola, che dà del populista, apre a Casa Pound, i fascisti. Anche Bersani uguale. È una vergogna, è una vergogna. Non hai capito. È oggi una vergogna. Gli ha dato del fascista, la subcultura, certo, eccetera. E adesso dice che è come Pannella. Ma veramente, ma ci vuole la faccia come il culo. Scusami, se quelli sono in Parlamento, tu adesso l'atto primo, ma perché non vuoi capire? L'atto primo è chiuso, è finito. Gli spettatori di questo show sono andati. Ma non è Grillo, non ragiona. Fammi aiutare da una persona. Scusa, per favore, fatti aiutare. Un grande, il professor Becchi. Buonasera, professore. Eccola. Ciao, carissimo. Ciao. Io lo so che purtroppo stavolta ti devo dare ragione completamente. Anzitutto, c'hai un nome che mi esalta, Beppe, insomma, Giuseppe, Beppe, no? Scusami, professor Becchi. Allora, caro Stefano, sì, la questione è molto. Ho sentito quello che hai detto, ma non posso che replicare quello che hai detto come hai detto te. Ma insomma, dovremmo fare un'alleanza al Movimento 5 Stelle con delle facce da culo, esattamente come Vendola. Lasciamo perdere gli aspetti, però insomma è una faccia da culo. E lui soprattutto, sì, un professore, non parlarmi di professore, lascia perdere, sono nella mia ora di libertà serale. Esatto, bravo, ho lavorato tutto il giorno, lasciami. No, lascia perdere. Sì. Sono un cittadino normale che di fronte a Vendola e a Bersani, a dei morti che camminano, preferisco sicuramente il nuovo che avanza. Il nuovo che avanza sono questi giovani che entreranno in Parlamento. Oh. E loro credono, dopo avergli dati del fascista, del populista, dell'autoritario, eccetera, di farci l'alleanza insieme. Ma insomma, Giuseppe, tu andresti a pranzo con uno fino che al giorno prima ti ha detto che sei un coglione, uno stronzo, un grandissimo figlio di puttana, eccetera. Ci andresti a pranzo? Ma no, ma scusa, ma poi non è l'unica cosa. Gli ha detto sei un miliardario. Non è che Grillo si è risparmiato, però Grillo non ci vuole fare l'alleanza. È diverso. Senti, il Grillo c'ha un fondo, secondo me, di ironia nelle cose che dice. Vabbè, che è diverso dall'altra parte, e c'è quello delle grandi narrazioni, quello che, eccetera. E dietro queste grandi narrazioni non c'è un cazzo. È chiaro? Ecco, dalla parte di Grillo invece, a parte le espressioni qualche volta forti, eccetera, c'è effettivamente un movimento nuovo. Oggi ragazzi, sulla cosa, questo programma televisivo, c'erano 20 persone collegate, la mia casa è diventata un casino, scusate l'espressione, ma c'ho mia moglie che si è innamorata di Beppe Grillo, mio figlio che... Quella è preoccupante, la moglie innamorata è preoccupante. Poi c'è mio figlio che ha 16 anni, che non ha mai capito un cazzo di politica, che adesso vive soltanto di politica. E devo dire la sincera verità, qui mi hanno sconvolto stasera. Professore, vogliamo dare, scusa Stefano, diamo un consiglio a Grillo, che cosa, a parte che ha già risposto lui alla BBC oggi dicendo nessuna alleanza eccetera, però di fronte a queste offerte, quale dovrebbe essere la controproposta del signor Grillo? Ma guarda, io penso che è inutile il movimento, per quello che io poco che l'ho conosciuto, ha delle regole molto chiare. Alleanze sarebbe contro natura farlo, perché loro hanno uno statuto tale, per o non statuto, chiamalo un po' come vabbè, vuoi, quello che è. Che hanno firmato, tra l'altro, che è andato in Parlamento, l'ha firmato. Ora, voglio dire, qualche singolo potrà anche, non lo so, alla fine... ci sono sempre le pecore nere, però il movimento in quanto tale... Ma sarà guidato, insomma, col pugno di ferro da Grillo, diciamo la verità, è da Casaleggio, questo è la... Ma io, guarda... Speriamo. Il capo politico resta Grillo, anche se Grillo, quindi voglio dire chiaro... Senti, che ma che quando, quando lui vuole andare a fare le consultazioni, un po' per umiliare Napolitano, andare lì, ecco, adesso mi devi stringere la mano. Ma si sono umiliati da solo, abbiamo un Presidente della Repubblica che, insomma, da quello che è successo dopo il caso Monti eccetera, non parliamo della trattativa Satomafra perché non se ne può neanche parlare, ma insomma i giornali ne hanno parlate e via discorrendo, insomma non è che ci abbia fatto una gran bella figura, scusa, ma è così, non mi pare che ci abbia fatto una gran bella rilanciare dicendo approvatemi due tre cose, va bene, che cosa deve fare, adottate il mio programma, dai un consiglio a Grillo. Ma io lo sai che cosa darei consiglio a Grillo? L'unico consiglio che direi è, tutti dicono, ma senza governo è l'anarchia. Ma chi se ne frega? Ma lasciate pure questo governo, tanto non serve un cazzo il governo. A quel punto continuate con l'attività parlamentare. Cioè, la decisione sulla legge parlamentare, cosa c'entra il governo? Se questa legge elettorale è una legge che riconoscono tutti che è una legge del cazzo, e si mettono d'accordo lì, e discutano in Parlamento, la possono modificare, cosa c'entra il governo? L'unica cosa che il governo precedente avrebbe potuto fare, se ci pensi bene, il governo Monti, l'unica cosa che avrebbe potuto fare, l'unica, era cambiare la legge elettorale, non ha fatto un cazzo e non ha fatto neanche quello. Senti, però l'abolizione dovrebbe dire abolizione del finanziamento pubblico dei partiti, stipendio di 2005 per tutti i deputati. Allora va bene. Ma su quelle cose il movimento sicuramente voterà a favore. Ma te li immagini un Bersani che dice sì, d'accordo, da ora in poi ogni parlamentare si becca quello che si beccherà, come il movimento, come ora parlamentare di 5 Stelle. No. Ma figurati, questi qui se ne ritornano alle loro professioni. Dico, è col cazzo che vengo lì in Parlamento se mi trattate come... Professioni chi ce l'ha, altri con la pensione da parlamentare, attenzione. Appunto, ma ecco, per esempio, togliamo le pensioni ai parlamentari, che bisogno c'è? Parenzo, basta, dobbiamo chiudere. Grazie professor Becchi, grazie, a presto. Davide? Che c'è? No, grazie professore per il contributo. A domani. Tanto siete finiti voi. Appena prendiamo il potere chiudiamo la zanzara. Siete morti che camminano. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, lo so, alle 8. Ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Sono morti, è finita. Radio 24. La passione si sente.